Allora devi toglierti il muto, Marco, se vuoi parlare. Tenetevi forte! È stata la prima cosa detta in diretta. Bene, siamo in diretta. Valenzione di Catta numero 35. Modalità video. Sì, bravo, bravo. Tag World Wide Buon Azzurro. La stessa dell'altra volta. Ciao Marco. Allora sparo questo. Allora, sei pronto per finire la nostra missione diplomatica? Andare in bagno. Comunque. Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi hanno fatto il lavoro migliore con i separatisti. E loro non è che avevano fatto un lavoro. Penso ti sa... No. Dopo te la faccio. Non ho avuto tempo. Dovrà essere autonomo. C'è ancora in tempo per uccidermi tutti, quindi... Dopo te la... Sì, era proprio quello per cui vi abbiamo mandato. Hai capito? Ritornano con le teste. Comunque, abbiamo parlato di elfi. Maledizione di Catta, numero 35 di episodio. Numero 35. E siamo sempre tra i Consent Dragons, se non sbaglio. Tu Giulio che dici? No, è vero, sono la pizza. Spara mia pizza. Ma c'è la pizza in bagno? Oh, non so. Per dare fuoco a tutto. Cosa c'è? Mi sembra di fare in bagno. Gioca con le scoreggie. L'incenso dopo che hai contaminato la zona, come lo accendi? Non è una guarnanda. Sì, è pulito di qua. È la parte sopra. No, scusa, mettilo sotto che il tuo cartone non era pulitissimo. Potrebbe essere per esempio una buona idea. Comunque metterlo sotto a prescindere. Quando Giulio ha ragione, uccide qualcuno. Cioè sempre. Allora, le schede le avete prese. Cioè sempre. E, noi siamo tra i Consent Dragons, come dicevo. Ci siamo più o meno tutti, tranne Edoardo Saladini, che salutiamo. E ne dimentichi uno. Beh, Luca Lazzarini ormai direi che ha dato forfait. E però lo salutiamo comunque. Come Andrea Giacomo Vecchi da Bologna abbiamo Stefano Gamberone, Giulio Bosi, in bagno abbiamo Francesco Arcidiacono. Se volete vi portiamo. A Capotavola abbiamo il master, Enrico Gattabricchio. Potresti andare in da, oh, sarò, ah, commentate solamente dalla FKK, esatto, di Osnabrück. Dalla confraternita, ah no scusa. No, vabbè, insomma più o meno, sempre orge sono. E abbiamo Marco Bosi che salutiamo. Hai preso delle pizze per me? Sì, per te piccolino. Comunque sono stato a mangiare la pizza da Michele, presente quello che ha aperto lì. Sei riuscito? Sì, è stato alle 11:30 di sera. Ah, che onesto. E, vabbè, dopo cena, così in gag. E sta buona. Ed è stata, beh, sì, è buona. Beh, cioè, credo che potrei mangiarne 8. Beh, scusa, non eri andato a... L'avevo già presa a Roma, però non mi ricordavo fosse così leggera, perché l'ho presa proprio dopo cena. È molto buona. Beh, è molto grande anche. No, normale. Il peso di una pallina è normale. Ma proprio perché tu l'hai presa più piccola? C'erano due taglie, non mi ricordo. Io me la ricordo normale. Grande. È grande come diametro. Ma anche lì c'è solo tipo margherita e marinara o doppia mozzarella. Queste robe. La marinara non c'è, però se me la fanno. La marinara non c'è. Cioè, mi scritta il menù, me la fanno. Ma dov'è? E perdonatemi. Cazzo, allora bisogna andarci con gli hack per vedere la faccia che fa non trovandola. E... Beh, anche lì senza mozzarella. Qui non è la tata cotta, eh. Beh, sembra che l'audio ci vada. Cazzo, allora bisogna andarci con gli altri. Comunque, adesso vi metto anche. Ah, funziona. Ah, prima di cominciare, Vez voleva consigliare l'acquisto di una fotocamera. Però avevo visto, cioè, in effetti non è malissimo questa soluzione, solo che è un po'. Porta la modalità PC camera. Non la riesce ad attaccare al PC e usarla come videocamera del PC. È tipo solo GoPro che fai i filmati e poi li scarichi. Solo che mi sembra abbastanza inutile. Bene. Ma c'è solo che potevi sapere anche prima questo. Ma oddio. Pensavo che tutti lo facessero. Basta fare il reso, tanto per performance. Ma cosa devo fare? Reso da Amazon? Non so come si fa. E se Amazon ci volesse sponsorizzare? No, che più che altro dopo le devo prendere un po' a caso e sperare che una lo faccia, però. Oppure Vez, vai a trovare le recensioni di una che già sai che lo fa e poi compri. Ma come faccio a sapere? Sono tutti uguali. Vai sui tuoi ordini e poi puoi fare restituisci articoli. Clicchi su restituisci articoli e segui quello che ti dico. Ah, ok. Vabbè, è il bello della tecnologia. Quando funziona. Se solo tu avessi hobby internet. Allora, che c'è ancora la pagina Facebook. vero, perché ogni tanto mi chiedo se voglio sponsorizzare Fatty Coin. Intanto ricevo un like da qualcosa. Smutati Marco, ma perché mi metti muto? Perché? Boh, cioè. Basta Marco. Ah, tra l'altro oggi sarebbe giusto che la faceste voi. Lo faceste voi. Oggi lo fanno loro il riassunto, assolutamente. C'è qualcuno di voi che è connesso alla carta? Io potrei. Io mi sa. Mi sa che non sono automatico, tolgo. Sì. Io no, perché ho già tutto esattivo. Ma stai calmo adesso. Impossibile connettersi. Io qui l'ho tolto, non può essere con. Forse ero io. Sì, ma la cosa che fa ridere è che lui adesso fa il figo e si connette. Quando lo metto io dico, oh beh, tanto se si connette sempre rubandomela, e invece ovviamente tutte le volte non è possibile. Posso mettere facile? Sono cornino, proviamoci. Tanto quelle alluminio e quelle è rifiuto non riciclato. Che fatica, ragazzi. Oh, un parto. Cesareo ogni volta. Allora. Sei pronto? Vai, fate riassunto. Riassunto. Con i lettori di carta. Un pezzo di merda! La contorno di oggi vi è offerta pubblicità, da bestemmioni. La gente guarda queste cose per non avere la pubblicità, ragazzi. Non era questa cosa che Porn Ag Thunder. Attenzione, ti ho mandato quello. No. Però vedi, Mike compare sempre il ribigione, ma mai Tigers and Dragons. A me nella home compare sempre il ribigdr, ma mai Tigers and Dragons. Perché? Perché è un libro vezza la tecnologia. Ti prego. Tigers and Dragons. Sono dei corti. Ricevi le notifiche, stando, vedi, c'è. Devi fare il riassunto. Devi fare il riassunto. Io e Marco cavalchiamo, becchiamo 5 zingari, li stupriamo, arriviamo al campamento degli Elfi, sbagliamo a fare la diplomazia e sanno i cazzi. Questo è il riassunto. Top, fine. Ok. Buono. Sì, stiamo a risparmiare dettagli un po' scurrili, tipo la freccia nel culo di Marco, io che giro per il prato, dice che bella talpa. Marco che con ragazzoni con la freccia. Che poi sanguinante dice, ho visto la talpa colpita. E non dimentichiamo che ha tentato di bruciare le capanne. C'è anche riuscito, ma hanno sventolato subito. E adesso c'è una specie di discorso invettiva con l'elfo che in teoria. Nel frattempo a Crest noi abbiamo catturato un teschio sciameggiante, l'abbiamo interrogato, lui ci ha detto palla di fuoco. Però non l'ha fatto. E alla fine gli elfi hanno deciso di seguirci. No. Bene. Quindi dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che cercavate in qualche modo di discolparvi da. Io non sono stato incolpato. Cercavate nel senso cercavo. Però stavi cercando di discolparlo. Stavo cercando di aiutarlo. Cioè io in realtà ero partito con l'assedio della felicità. Oh ragazzi, andate da Yelfe e ditele che qui Kretzka è un posto sicuro in cui possono trasferirsi. No, questo è comunque non l'avete mai detto, l'ha detto Marco. Non l'ho detto. Io lo alzo, non capivo. Ragazzi, quindi, c'è l'assedio, le armate dei morti. Dopo che appunto erano stati chiamati tutti a raccolta per capire che cosa era stato, cos'era successo, che cos'era stato a scatenare l'incendio e cercare di trovare il responsabile. Ho trovato le gemme, ricordo. Tu avevi trovato. No, loro. Loro le avevano trovate, esatto. Delle gemme che erano state lasciate lì per cercare in qualche modo di far ricadere la colpa sui distani. E appunto mentre decantavate quanto si stesse bene a Kretsk e quanto fosse pieno di donne e di vino. Le armate dei morti assediano la città. Esatto. E un elfo del villaggio, un po'. Insomma, seguiamoli. Ha gridato: noi siamo astemi e tutti frogi ogni caso. Salutiamo gli astemi e i frogi che ci seguono. A voi indovinare. Ah no. E c'era presente in mezzo alla folla uno che forse non gli andavate molto a genio, o forse non aveva bevuto una delle stronzate che avevate cercato di propinare. Mai. Ah, sono astemi veramente, bevono anche una stronzata. E quindi cominciava a lanciare quasi delle accuse. Che quasi? Diciamo mettere in ragionevole dubbio che si stava così tranquilli prima che arrivaste voi, poi guarda caso per secoli siete arrivati poi proprio quella notte in cui siete venuti a riposare qua, cioè questo è stato questo gran baccano, hanno appiccato fuoco ad una delle capanne e quando tutti sono usciti c'eravate voi già fuori. Anche le guardie, cioè per attirarli potrebbero anche dire che c'è Casimir Morente e non vogliono perdersi la scena. Lo odiano. Potete finirlo voi. Comunque concordo con l'elfo, non è un caso che mentre noi riposiamo e non siamo in guardia prendano fuoco le capanne. Forse avremmo dovuto far la guardia. E il muto è lo stesso dell'altra volta. Ok, a posto. Prende la parola il capovillaggio e dice: noi siamo una gente civilizzata, esistono delle leggi e delle regole che il villaggio si deve seguire. Bravo. Per cui si formalizzino le accuse, se chi le ha parli adesso o taccia per sempre. Ah. E ogni imputato avrà diritto ad una sua difesa. Grazie al fatto che hanno centinaia di anni di storia e di legislazione, ma nonostante questo vivono nelle capanne. Migliaia, decine di migliaia. E sono in venti. Soprattutto sono in venti. Vabbè, non possono riprodursi. Ah, quindi Marco dici come siamo ammazzati tutti. Bene, si riuniscano. Scusa, loro poi sono solo uomini perché hanno ucciso lapidato tutte le donne. No, perché strada ha ucciso tutte le donne. Loro hanno lapidato solo la. Cioè loro. Tutti loro? O solo Kevin l'ha lapidato? Kevin ha organizzato la lapidazione. Non sai se tutti vi. È successo molti anni fa. Chi è senza peccato? Però poi so che hanno ucciso anche il ginecologo perché per ovvio non utilizzato. Ma allora hanno ucciso Kevin, sì o no? No, Kevin è con voi. Kevin è con noi, come hanno fatto. Allora, Kevin, l'ultima volta. Kevin è il mago. Casimir, il mago elfo. Casimir. No, Kevin io lo chiamo. E Kevin si chiama adesso. Casimir, quando venne da loro, dopo che Vardistran gli disse: ah, portali dalla nostra parte. La presero talmente bene che lo inchiodarono. Lo malmenarono, lo impalarono, lo legarono fuori dal villaggio grondante di sangue ad aspettare che le bestie selvagge facessero. E allora, solo allora deciso di venire con noi. Ma sì, dai. A quel punto diceva: vabbè, qua non mi vogliono più. E quindi è questo che voi ora dovete fare: impalarli tutti. Esatto, e malmenarli. E dire: volete venire con noi? Quindi. Ora venire con noi non sembra una brutta alternativa. Si fa il processo, si formalizzano le accuse. Con i tuoi piedi, Arci. Cioè, io non metto i piedi da te. Non ho messo i piedi da te io. No! Cioè, sono qui. Mi hai preso già contro tre volte. Disputa territoriale su Tycoons & Dragons. Così? Cioè, io sono più alto di te, ho le gambe più lunghe e non vengo a romperti il cazzo. Sì. Sono più alto di te, Anakin. Ho capito? Non ti sto coprendo, cioè, sono in mezzo, guarda. Sei no, lì. È che ogni tanto mi arriva il calcino. Ma non è un calcino, è un tocco. Tanto conta come si usano. Esatto. Tanto si dice piedino. Poi non è che faccio cioè un tocchettino, cioè no. Nonna, oh. 50 ne hai. Di cosa? Punti feriti. 43, 4. Ok, venite invitati. Ho anche il piede più lungo di te. Al centro di iniziare. Stiamo già iniziando. Ma va bene. Oltre ai punti ferita, ricorda Marco anche quanto ha di carisma. Beh, quello si avrà scritto se dovresti avere 18. Quello che cambi poco questo numero. Sì, 18. Molto bene. Può essere utilizzato se vuoi. Il loro numero non avrà effetto. Tipo, chiedi di fare una prova ogni tanto. Abbiamo avuto un riposo veloce. Esistono i riposi brevi e il riposo lungo. Il riposo veloce breve. Cos'è? No. Il riposo immediato. Voi no. Costa un po' però, il riposo immediato. Ma c'è il bonus di riposo. E allora mi rimangono due magie di secondo livello. Palla di fuoco. È il terzo. Purtroppo. Lo so. Hai altri splash, non serve altro. Vi chiedono di accomodarvi al centro del villaggio e il capo toglie il suo buffo cappello per mettersene un altro ancora più buffo, che è quello di giudice. È di metallo per caso? No, no, è una specie di cappello di Harry Potter. No, di parrucca fatta con delle pelli. E sono Marco, contatto, non così. Cosa? Io non sono indagato. Tu sei persona informata sui fatti, come si dice. E, venite fatti accomodare al centro del villaggio. Mi fa casino. Una volta che sono tutti intorno a voi e pronti a godersi il processo, lo spettacolo, il capo invita chi ha mosso le accuse a parlare. E dai, ci parla. Io chiedo un processo per combattimento. Tutti si fermano e ti guardano. E sia! Ci sta. Le nostre leggi impongono che... L'importante è le accuse. Ma le accuse... Ha dato una merendina, allora dispensa. L'accusiamo di volerci portare in un posto bellissimo e meraviglioso. No, questo è un altro processo. Questo è il processo al signor... Fortuna, che non mi ricordo se si è presentato in questo modo. No, si è presentato come Fortuna. In signor Fortuna. Speranza. Sì, è vero, Speranza. Signor Speranza. Ce l'ho adesso. Perché sono l'ultimo a morire. Come accusato di aver perpetrato atti vandalici nella ridente comunità. Ha scritto ACAB sulle... Comunque basta che un elfo... Io dico comunque... Scusi capitano, basta che un elfo... faccia un'accusa così totalmente infondata e che si apra un processo. Le nostre leggi sono giuste perché maturate nel percorso di migliaia di anni. Per questo non l'ha più dato una donna innocente. Una serie. Anche la sorella di Casimir aveva scelto il processo. Per trial by combat. Esatto, per combattimento. Era tutto il villaggio con le pietre contro lei. I campioni del villaggio erano le pietre. Ha vinto. Viene formulata l'accusa, le pietre. Ovvero che l'accusa è quella che il signor Speranza ha appiccato per qualche motivo un incendio nella... La casetta dei... No, Marco, sei indagato, finito in tribunale in meno di 24 mesi. E ti dà il diritto di nominare casina, un difensore. Casetta, casina, tanto carina. Nominare un difensore? Boh, sì. Chi vuoi essere presente? Hai poca scelta, Marco. No, in realtà puoi scegliere fra un nano, un alce, un orso, un'aquila. Ma quindi non già accettato. Loro si vedono. Sì, però prima... Deve nominare il difensore allora la possibilità di chiedere il processo, il trial. Beh, difenditi da solo, se no. Beh, intanto voglio capire... 18 potrebbe anche farsela. Nomino il mio alce sotto forma di nano. Nomino senatore il mio cavallo. Sì. Ma comunque faccio notare che è sproporzionato, in quanto non abbiamo conoscenza delle leggi di questo posto. L'ignoranza delle leggi non è Una scusa. Questa è la base. Nessuno legge... le ha violate fino adesso. La legge non ammette ignoranza. Chiederei all'accusa di presentare le prove a sfavore, a svantaggio del mio assistito. Beh. Anche dopo il ravanamento di tutte le... termini giuridici del prato intorno alle cose. Se vuoi il coso di combattimento, penso tu lo debba chiedere più o meno subito. Zitta, se non c'è ne cazzo, si chiede. Non so se è che tipo, e la giuria lo dichiara, Ryan McCombat. L'ho detto prima io. Ryan McCombat. Un minimo ci provo, non è che adesso ammazziamo tutti così a Ryan. Ma... tu conosci le leggi degli elfi? No, però... Sei lì? Non mi fa. No, fai pure infatti. Tu sei segnato la bellezza. Finora la siete capata abbastanza bene, mi pare. Lui dice: l'accusato era l'unico presente sul luogo del delitto. È stato ritrovato fuori al buio. Mentre. Antibullo. Ci sono dei bulli palesemente. Mentre l'incendio era già stato appiccato. In quelle condizioni può essere stato solo lui il colpevole. Il capovillaggio ti dice: come risponde, signor? Non è una prova questa, semplicemente ripetere l'accusa. Esatto, tecnicamente sembra un po' in termine giuridico una cacata, perché mi passa il termine giudice, verrevamo fuori anch'io per motivi diciamo fisiologici, e anche le due guardie che possono confermare, e abbiamo anche visto un animale a cui che hanno colpito. Come possono confermare le guardie? E questo vi esclude dalla lista dei sospettati. Ma certo. Non esclude lui. Lui non so perché fosse fuori, chiediamolo, mi ha assistito. Il grande avvocato. Vabbè, ovvio che non deve dire per dar fuoco alle capanne, dice. Per dar fuoco alle capanne. Ma sappiamo perché era fuori, per appiccare l'incendio. Questi... Che interesse avrebbe il mio assistito a bruciare immigrati. Le capanne di voi elfi dopo che ci avete ospitato? Quale sarebbe il movente? C'è un attimo di silenzio, perché ovviamente loro non lo sanno. Quando vedo un po' di questo tentennamento, aggiungo: pagliacci! Il nanico, però. Anzi, io vi dico: sacca delle. Ci sarà almeno un druido. Sì, pace fra i mondi! Quale può essere stato il movente che il signor Speranza, che ha portato il signor Speranza? E questa è la domanda che fa il giudice alla pubblica accusa. Sì. Il nome è una garanzia a compiere questo gesto. Non un contratto. A me pare che l'accusa stia accusando un po' così, quasi per razzismo, perché non è, non è un elfo. E forse perché e forse perché è anche omosessuale, mi ha assistito, ed ebreo, quindi ci sembra un aggravante. Cosa? Anche nero. E è un nero sbiancato. Si identifica con... Sure, tu che ne sai di più? Scusate, nel gruppo del calcetto, quello che ho detto che c'è, chi è? Salutiamo i partecipanti al gruppo del calcetto. Tre puntini, quindi è un po' difficile. No, quello che ha scritto solo ci sono. Sì. È salvo. Come salvo? L'hai salvato con tre puntini? No, non l'ha salvato. È lui che si chiama così. L'hai salvato col suo pensiero più la parola. No, non ce l'ho salvato. Non ce l'ha salvato, e quindi va bene. Il numero è un nome che si è dato. L'accusa dice: non mi importa del movente, probabilmente avrà voluto causare panico per intrufolarsi nelle nostre case e rubare i nostri averi. Come fanno poco di buono come lui. Quindi veramente la vostra accusa è che noi siamo venuti qua a rubare? Non lo so. Anzi. Questo sì. Quasi sicuramente no, signor Dolby. Noi ci possiamo fidare. E cosa avete notato che è scomparso dalle vostre capanne? Come furto? Nulla, perché... Io... che bel ladro! Fermi! Un ladro di nulla! Arriva uno dalla folla. Noi abbiamo rinvenuto questa gemma preziosa dal luogo del delitto. Ah, sono uguali a qui. Ah, ma Sambuca ce l'ha. E il tizio dell'accusa dice: ah, ecco, era uno dei bottini che questo poco di buono si è intascato e gli è caduto per sbaglio mentre appiccava il fuoco. Mi spiace, ma devo tirare fuori le mie doti da detective, no? Da detective nano, da esperto minatore di nano. Ma se cerchi una gemma e la cerchi vistana. No, no. Questa è una gemma vistana. L'ho vista. No, hai vista? Diverse volte. Non so dove l'abbiano presa. Però sicuramente non fanno parte del bottino del mio assistito. Chi le ha le gemme addosso? Io. No, non lo so chi le ha. Non so chi c'ha Marco. Credo io. Fantastico, se lo perquisiscono. Prima devo aver mandato. È contro i miei diritti. Ma non mi ricordo che non conosceva la legge. Non l'hanno ancora perquisito, non è che perquisisco. C'è mille incantesimi che può usare per nascondere le gemme. I vistani sono noti per essere dei mercanti, non hanno un particolare tipo di gemme che li contraddistingue. Come fa a dire che appartiene a loro? Beh. E soprattutto loro se ne sono andati, perché dovrebbe essere rimasta proprio lì? Beh, perché i vistani sono palesemente dei ladri. Sai, un po' di sdegno perché no, erano. Diciamo che non è la prima volta che incontro dei vistani che hanno derubato, che posseggono cose non di loro proprietà. Beh, questo. E sicuramente sulla gemma non ci sono delle. Non ci sono delle firme. Quindi potrebbe appartenere al mio assistito, come all'eventuale colpevole che io in realtà sono ancora intenzionato a cercare per darvi una mano. Nonostante qua sembra che l'unica cosa sia dare colpa al forestiero e allo straniero, dai, Matteone. Ciao Matteone. Va bene, allora è deciso, dice il capo. Avrai un giorno di tempo per trovare il proprietario di quella gemma. Ma non conosco le foreste. Non sta parlando con te. Ah, perché? Ma con incasinare. Abbiamo un giorno di tempo che. Se riuscirai a farlo, sarà prosciolto dalle accuse. Sì, ma il discorso è. Abbiamo già finito. Io cercherò di trovare il colpevole e tutto quanto, ma. Perché se non dovessi trovarlo, diventa automaticamente lui il proprietario e l'accusato? Ah, minchia di legge avete. Scusione. Migliore sistema giuridico di migliaia di anni. Ma scusa, Trial by Combat mi sembrava una buona idea. Adesso arrivo le proposte. Perché non siamo andati per quello? Mi sembrava un'ottima idea. Se tu l'avvocato, Marco, hai scelto come mio avvocato difensore un alce. Ringrazio che parlo sotto forma di nano. No, ha chiesto un alce in forma di nano. No, ha detto che era il suo alce in forma di nano. Lasciate che io possa, che io interroghi il mio primo testimone, il gorilla. Allora, signor gorilla, che cosa pensava che... signor gorilla, queste illazioni... No, non so come funziona nel vostro paese, nel vostro legge. L'ignoranza, la legge, non è prevista. Finché non c'è modo di dimostrare che quella gemma appartenga al mio accusato o al colpevole... L'onere della prova sta a chi fa l'affermazione. Esatto. Dovete voi trovare il modo di dire che appartiene al mio accusato. Se no, potrei dire che è tua. Stupidi omosessuali. Oppure, nel mio paese, nei miei circoli druidici, anzi tra noi alci, quando non combattiamo in forma di nani, si usa difendere l'onore a cornate, senza ovviamente finire l'avversario, ma la giustizia trionfa sempre. Ma qui purtroppo di alci non ce ne sono. Era ovviamente una metafora. Dove le corna rappresentano l'arma del duello, l'alce è l'animale più giusto. Grazie. E quindi possiamo anche fare un duello non letale. Effettivamente c'è un. E condannare a morte lo sconfitto. loro uccidono il duello. Benissimo. Effettivamente la nostra tradizione e la nostra legge prevede la, che siano gli dei a decidere dai fastidio giù, non è la, le sorti muove, di questo le sorti di questo procedimento penale. E la tradizione vuole che la, l'accusa e l'accusato eleggano un campione, un rappresentante. E ti scelto come avvocato, non puoi sceglierti di nome. Oh, sì, puoi scegliere. Cazzo. No, lui è l'avvocato. E, i due rappresentanti si metteranno ai lati opposti della piazza e verrà posta una mela sulle loro teste e un arco e una faretra nelle loro mani. Sì. Il primo che riuscirà. Grande Vinz. Sembra, esatto, mi sembra un pochino di parte questa sfida. Cos'è che, nostre, cos'è che ha, scusate, le nostre tradizioni? I due contendenti invece che lottare normalmente ai lati opposti della piazza con una mela in testa. Ci si frecciano le mele, chi becca la mela vince. Sì, ho capito, ma se loro invece che mirare la freccia ti mirano in fronte sei morto. È il pro- la decisione degli dei è... Proprio lì che io mirando la fronte... Ops! Non ho beccato sì, la mela. Tu devi sparare, spara a lui, poi dopo ti avvicini con una freccia. La cosa che posso proporre io è di uccidervi tutti. No, visto che mi sembra un po' svantaggiosa questa, questo gioco nei confronti di chi sa tirare con l'arco. Un arco ce l'ha. Farei o una cosa alla vecchia maniera, quindi a mani nude. Ci hai preso per degli sporchi bifolchi che non ha, conoscono l'arte del... E poi non c'entra niente. È il momento della sfida. L'abilità. Quel, durante la, il processo degli dei sono loro. Non ce n'è neanche uno che propone la gara a giallo. No. Cioè, una dance battle. La break dance. Beh, vabbè, scusa. Una gara di ballo, sì, va bene. Se no una rap battle diretta dietro. La giuria potrebbe essere un po' di parte, non so quanto vi conviene. Questo è più oggettivo come scusa con Eldritch Blast, però Marco tu vai Eldritch Blast colpisce una creatura, no? Appunto. Appunto. E poi dopo bene, ha deciso il giudizio degli dei sceglierà chi è il colpevole. E non capisco come funziona. Se entro la mela in testa, l'obiettivo qual è? Il primo che c'entra, quella dell'altro. E se il mio assistito venisse colpito dalla freccia? Verrà curato e... Sì, beh, dalla morte non c'è cura. Se venisse colpito in fronte dalla freccia? E in genere... Non succede, ma se dovesse succedere... Come in genere? Non, non succede, succede, ma scusa! Succede. Cioè, la mela di come non succede... Vabbè, ho capito. Mettiamola per terra la mela, mettiamola su un, su un tronco. Vorrà dire che... Se gli dei vorranno, esatto, nessuno verrà colpito. Bravo, vedi che lui è un... Cioè, devi prendere la, la, la mela dell'altro, tu devi tenerti la, la, la mela... Cioè, in realtà, che essere bravi, però... Capitare, va bene essere bravi, è però, capitato in passaggio, però bravo, il processo, esatto, cioè nel senso il processo degli dei deve avvenire. Scommetto che tutte le femmine sono state processate così, no, quelle no, no, quelle pietre, non, pietre, non, pietre, non, pietre, non hanno avuto un processo. Beh, non, mi, non ti conviene ricordarle queste cose. Vabbè, ma siete un minimo abili con l'arco, un minimo. Io un po' sì, no, sono più delle destrezze. Ha un più? Io ho più due di destrezze. Sei di peggio. Beh, Marco si potrebbe pompare. Però l'alce è un botto di stezza, posso tirare con l'alce. Secondo me, se tu diventassi un orso, mangiassi il tipo. Per la fine della presa. Gli dei hanno deciso di trasformarmi in un orso per ucciderlo. Però puoi trasformare l'altro elfo tipo in un maiale. Poi si ma poi gli metti la mela in bocca, esatto. Dai. Diventa forte. Puoi trasformare un altro in un animale. Ah, però in effetti adesso non vabbè, puoi, in realtà puoi farlo tu e lui intanto suona contro la sua volontà. Certo. No, un tiro salvezza, sei contro la volontà. Sì, chiaro, un tiro salvezza, sei contro la tua volontà. Ah, sempre polymorph. Sì. Però in realtà effettivamente non ce l'ha adesso. Solo che io non faccio il tiro sulla volontà per evitarlo. Quando lo fa a me. Perché cioè, se sei una creatura consenziente. Ti piace in realtà tornate in una scena. Ci sta perché effettivamente gli animali non tirano, che lo salvete, non sono in grado. Ma se tu non lo sai mai, dico scena, sei pronto a combattere, tu fai certo. Poi ti faccio andare un pesce, tu non lo sai. Tu non è che sai cosa succede. E ora? Sei completamente pronto? Perfetto, scena, ora vieni. Non respiri. No, potresti farlo tu e lui griglia pronta. Tanto suona. Sotto Mario, quanto hai di destrezza? 16. Vabbè, che tanto le tue statistiche col carisma sono cazzo. Bene. La cosa fe. Come si dice? Chiedi quali sono le regole. Colpisce la mela, vince. Ci si pone ai lati opposti del centro del villaggio. E il primo che riesce a colpire la mela sulla testa dell'altro vince. Arci, secondo te anche questo va nel quello andrebbe nel vetro latino? Sì? Sì. Il primo che per riesce a colpire la mela perché di dubbio sulla testa dell'altro senza ulteriori specificazioni. Perché alluminio come la latina. Colpire ovviamente con la freccia, perché avrete vi verrà dato un arco e una faretra. E sì, se uno ferisce l'altro, allora diciamo che perde il processo. Potreste quasi buttarlo. Perché finché non colpisci o l'avversario o la mela, Marco, la salta farti centrare nel petto. ormai sei abituato. Mentre tira l'altro tira la freccia, tu fai un salto e in automatico becca te. Per forza. È logico. E poi dici, mi ha colpito, ho vinto. Giusto? Forse non è legale. Colpito. Deve stare fermo. A questo punto potrei usare mano magica e spostare la mela, cioè. Ma si vede in effetti. Potresti usare mano magica per tipo dare un tocchettino. Non è contro le regole. Ma si vede la mano magica? Sì, ovviamente. Sì, ma non è contro le regole. Che cosa faresti spostando la mela, scusa? Non la colpisci. Uso mano magica per prendere la freccia e metterla dentro la mela. Beh, immagino che la regola intenda col solo uso di arco e freccia. Se non è specificato puoi usare mano è interpretabile. Magica, puoi usare mano magica per tipo dare un colpetto all'avversario mentre tira, così sbaglia. Quello nessuno dice. Non c'è scritto, è solo colpire l'avversario. Non so, ci mandi il PDF del regolamento. Avvocato, mi serve che si informi. Avvocato, sei tu. È così, Marco. Tira la freccia e c'entra la mela. questa è la mia parcella. Ringrazio che non hai il cappio al collo. Alla peggio, scappiamo gambe levate. Io ti prendo come animale e corriamo. Mage End. Siamo tutti chiusi in uno spazio chiuso. Siete nel centro del villaggio, che è uno spiazzo in cima alla collina. Quanti sono più o meno gli elfi adesso che li vediamo? Li vedono tutti? Sono una ventina. Una ventina. Non lo so, ci sono tante cose che posso fare. Posso far plasma terreno per dare una copertura totale. Posso usare illusione per spostare la mela. Devo sapere se posso usare la magia, Arcio. Però sì, in realtà credo che se intervieni loro lo prendono come un fallimento, cioè hai malato. Devono essere gli dei tramite il tiro dell'arco a decidere. Il diametro del centro del villaggio è di 40 piedi. Chiedono alla difesa di eleggere il campione. Manco, ti butti a terra, così l'altro ha svantaggio sui tiri per colpire. Chiaramente se la mela cade... posso anche nominare Arci e usare Fantasma Force, così l'altro vede strade e si prende paura. Dai, fate qualcosa però. No, Marco, meglio che tiri tu, è in più di me. Quindi non vuoi barare, vuoi solo farlo onestamente. Sì. Cioè, se il tuo balare è visibile, sì. Eh no, che rischiamo che ti gamino, Marco, anche perché sono dei maghi, mezzi stronzi, qualcuno c'è. Sì, secondo me se intervieni in quel modo, in automatico ti danno per... Cioè, perché se tu bari vuol dire che ammetti di aver sbagliato, se invece ti affidi agli dèi e sai di essere innocente, lo fai. Ma secondo sono gli loro... dèi che hanno dato la magia, che mi hanno permesso di vincere. Sì, però di fatto tu sei colpevole. Dipende ma quali dèi. Comunque, scusa, ma essendo tu anche un bardo, non puoi dare ispirazione al tuo campione? Sì, ma se lui ha un cattivo punteggio, io ho un... Allora, un cattivo punteggio, lui ha 14. Che ispirazione non la puoi dare a te stesso, se mi ricordo bene. No, più anche che altro, chi di voi due ha la proficiency con gli archi? Io sì. Arco corto, sì. Arco corto. Ma sì. Tu hai la proficiency con gli archi? Oh, con le balestre, spade lunghe, no, è simple weapon. L'arco corto credo di sì. Quello lungo è marziale? Sì, nice. Se no, la balestra. Te lo danno loro l'arco, eh. E te lo danno lungo così tagliamo la testa altrove. Sono archi quindi. Beh, sono degli elfi loro. Tempo di farsi le armi fighe ce l'hanno. Ora che non hanno neanche le donne che li tengono impegnati. Esatto. Quindi certo nessuno dei due ha la proficienza. Adesso è andato a fare il tè. Va bene, scegliete il vostro campione. Ma uno deve stare fermo ad aspettare che l'altro finisca di lanciare. Dei due contendenti, dici? Sì. E a turno, inizia iniziando quello dell'accusa, tira la freccia, se becca bene, se no tocca la difesa e poi si va avanti. Se no chiedete un giorno, Arci viene a prendere me e io gli ammazzo tutti. Sì, sono io il colpevole, problemi. È quello che da poco ha tutto. Ed è vero. È marziale. Se no puoi provare a chiedere l'infermità mentale. Dici che sei tipo piromane e che non ne puoi fare a meno... funzionare è più forte di me, mi sono perso. Ma io farei Marco, tira sta cazzo di freccia al centro. Potete chiedere l'infermità mentale. Quindi chi è il vostro campione? Hai la tisana, Arci. Credo che sia più giusto e mi sembra anche più corretto, oltre che più facile per gli nostri dei di scegliere e, che siano proprio gli imputati a tirare le frecce. L'imputato, sì, ma non c'è un imputato per l'accusa. No, vabbè, lui, c'è un deficiente che accusa e un deficiente che sta in casa. Ah, cioè quello è quello che ha accusato. Sì, nel senso, comodo per l'accusa scegliersi un arciere provetto e vincere così. Magari quello che ha accusato è proprio quell'arciere provetto. Vabbè, sono sfigati, ma anche ah, però ha senso quello che hai detto, è vero. Propongo che sia Speranza, una buona Speranza. Affrontare e come si chiama l'elfo lì in questione? Scrausus. È canone. Scrausus comunque sì, andava in prima persona al processo degli dèi, non nominava un altro. Allora ripropongo che si nomini una... comodo per un arciere provetto accusare. Ma puoi proporre un ruolo invertito? Tu tiri per... Ve la tirate tu e Marco, tu ti proponi per l'accusa. No, no, vabbè. Eh? Ha un'idea. Che idea hai? Non sei lì. Non sono lì, però posso darmi un... Cioè, nel senso, alla fine, effettivamente quella, ok, le loro leggi, però anche la loro pratica. Quindi rimane il coso, però invece dell'arco si usa tipo... Marco, tu hai una balestra, giusto? Sì, l'ha detto. No, aspetta, non ho la balestra, ho la proficiency con la balestra. Cioè, tu puoi usare la balestra. Ma non ce l'hanno loro la balestra. Boh, loro sì, ce l'avranno, sì, figurati la balestra. No, è che il rituale prevede che si usino degli archi cerimoniali. Lo so, però sti cazzi, cioè, nel senso, vabbè. Senti il processo degli dei. Vabbè, dai, raga, venite a prendere me. Ci penso io. Arrivo io a togliervi il castagno dal fuoco. E a mettere il fuoco. E a metterci degli archi sopra. Marco, tira, fai un centro perfetto, li convinci. Ma l'arco corto è short. Gli archi cerimoniali che vi danno sono lunghi. Da un bell'arco tutto decorato, fatto dalle. Sì, esatto, giusto che io posso usare un'altra arma, sa usare l'arco. Lungo, cioè, come. Sì, esatto. Ma se gli dei vorranno che lui vinca. Esatto. Direttore, sì, mi devi aspettare un secondo, però. L'abilità non c'entra niente. Cosa che hai solo... detto questo? Se non lo dici, Giulio l'ha già finito. È solo il volere degli dei che guiderà le loro frecce. Terrò le mani così, perché sennò. Anche se non sto giocando, posso avere la mia scheda? È da qualche parte? No! Mi sapete dove? L'avevo messa. Sì, è qui. Parte. Ci sono. Dai, Speranza, quindi. Decidi di andare al processo degli dei? Ho forse altra scelta? Sì, abbia quella che davamo prima alla tua difesa di andare a cercare il colpevole. Sto ritrattando gentilmente fornito della liquirizia. Oh, ma non sono a cercare il colpevole, se hai il colpevole, quindi è meglio che... Beh, puoi andare a recuperare il cadavere dei Vistani e dire sono stati loro. Ad esempio. A quanto distano? Volete Vistani? Anche il ghiaccio? È poco. Io no. Cosa no. Tu hai scelto? È messa mia le cuffie. Ah, ok. Io senza ghiaccio, credo. Ti danno fastidio? Ti danno fastidio? No. Lascerò che il mio avvocato decida per me. L'avvocato decidi per lui. Ok, io proporrei allora così, per venire un po' incontro a tutti quanti. Mi lasci Massimo... Quant'è che distano i zingari? Li avete incontrati un'ora fa. Cioè mi lasci almeno 6 ore di tempo per dare un occhio al campo qua e ai dintorni per vedere se posso trovare colpevoli, e se in queste 6 ore non troverò nessun tipo di prova, impiccatelo. Ammazzatelo. No, se queste 6 ore non si trova niente, faremo la prova. Non era la morte, esatto. Faremo la prova con l'arco. Sì, è vero, nessuno ha mai detto che morirà. Scuoiatelo vivo. La pena era probabilmente tipo. Sei condannato a spegnere l'incendio, perché nessuno l'ha spegno. Dopo ore si doveva a chiedere scusa all'accusa e la legge degli elfi. Esatto. Sono migliaia di anni che ci chiediamo scusa e devi stringere il mignolino. No, comunque, sì, lanciare le frecce. 6 ore, propongo. Sì. Hai una giornata, hai un giorno di tempo. Ho fretta. Beh, no, vabbè. Va bene, no, bene. Va bene, però, propongo una cosa. Minchia, se denso. Propongo anche che se per qualche motivo trovassi il colpevole e si dimostrasse così la già certa innocenza del mio assistito, voi venite a vivere. No, domanda, il tuo personaggio ride mentre dice, perché no, chiaro, questo è importante. Questo qua è chiedo che veniate e che ci scortiate poi per il ritorno alle nostre al nostro luogo di ho comprato tipo l'unico liquore che non piace a Vez. Va bene, sarete sotto la nostra protezione in caso. Aspetta. Che poi tu riesca la tua cerca, Giulia, hai sentito? Se vincono il processo vengono. Oh, bravo. Non se vincono gli elfi vanno che li scortano a casa fino a noi. Cioè 20 elfi si spostano parte. Tutti? No, tutti no. No, però, una scorta. Daremo una scorta per passarsi in sicurezza. Però qui ne prendiamo in ostaggio la scorta, diciamo che no, se vuoi la scorta vengono tutti gli altri. Tutti no, qualcuno dovrà rimanere a proteggere il villaggio visto che c'è un piromano in giro. Però abbiamo catturato tutti. Vabbè, comunque, va bene. Va bene, fare fatto. Ma l'abbazia è casa nostra. Noi viviamo nell'abbazia. Sì, sì. Beh, in queste 24 in queste in questo processo in queste 24 ore puoi abbattere e bruciare tutti i meli che trovi. I meli hanno le scorte. Bruci tutte le, distruggi tutte le loro mele. Vabbè, mi reco al luogo del delitto. Al luogo del delitto? Ah, torna sempre. No, vabbè, chiedo prima, vabbè, prima mi parlo con Marco, credo che chiedo che mi dia qualche gemma. Mm-hmm. E se vuoi possiamo ucciderli tutti, non è problema. No, ma dovete portarli a Kretk. Che merda, voce. Prendo le gemme, divento animale. Mm-hmm. Corro verso i cadaveri. Ok. Nano. Metto le gemme nei cadaveri. Alce. Carico un paio di cadaveri. Quelli che posso tenere sulle corna. Alce gigante, due gemme. Con le corna d'alce. Alce gigante, due zingari di merda ci staranno. Tanto i zingari li abbiamo uccisi io e Marco, no? Chi altri c'erano? E li abbiamo uccisi, tipo, cos'è che sono morti? Sono stati uccisi. Io ne ho uccisi due con Eldritch Blast e altri uccisi te. Sono stati uccisi zoccolati e cornati. Tu un paio c'erano, li avevi addormentati, sì. Quindi poi. Due li avete finiti da. Da animale. Ok, sì, allora ma prendo... lui si è divertito poi con a schiacciare. Allora prendo quelli, quindi quelli non uccisi da Eldritch Blast, quelli uccisi dagli zoccolate. Tisana per l'avvocato. Così è. Uccisi. Ecco lei, avvocato. E, li porto. Salutiamo gli astimili omosessuali. E, beh, li porto. Cos'è questo? Nutella? Sì. Comunque non lo puoi mangiare. Con nocciole turche. La puoi assaggiare. Sembra sambuca. Sì. Quella è riferizia. Dopo che ho bevuto una bottiglia di quella ho sboccato la vita, sì. Quindi... Fai whisky, no? No, a Montenegro. No, a Montenegro. Afroamericano, vorrei. Perché fate diverso, Duvez? Perché la liquirizia non mi piace. Ho comprato ha avvelenato tutti i bicchieri di una fermice. Va bene, cazzo, no, si beve. È densissimo. È densissimo. Infatti lo vedevo che c'è chi toccava una crema di liquirizia. La devi masticare, no? Ci devi tocciare questo. Ah, che buono. Beh, torno al villaggio. Cioè, è buono, eh? Però è denso. Due cadaveri. Due cadaveri. Sono stati in palle. Li porto davanti all'accusa e al giudice. Prima del 6 ore. Sì. Grazie, Shiro. Non ti aspettavi che ti è vero. Infatti gli ero chiesto per e quello. Dico... Ah, mia scheda, utile. Appena ho trovato questi e li ho fermati per interrogarli. Cos'è vero che ora che tornerà? Sono risultati ostili. L'intera guerra. Soprattutto appena chiesto di mostrarmi se avessero della rifruttiva. Beh, e guarda caso sicura o distrutta. Ho trovato delle gemme con gli elfi. No, parte sono andato male. Poi coglioni. Sì, ho trovato le gemme e. No, sta agendo. E non ho dovuto difendermi. Ma anche voi facessero uno scontro così poi. Forse devo tirare. No, aspetta. Bene. Chiameremo. Il nostro esperto di gioielli, il nostro gioielliere, per verificare quello che dice. Arriva questo elfo. Arriva? Questo elfo un po' più anziano, un po' più vecchiotto, relativamente, per quanto dall'aspetto sembrano più o meno tutti uguali. Esatto. Si mette ad esaminare la gemma che è stata rinvenuta sul luogo del delitto e con quelle che sono state ritrovate nel corpo degli Stano e dice sì sono no perché conoscendoti nel culo controllato. No, gli hai fatto la classica manovra negli occhi. E dice, sì. Adesso non vedi più, eh. La fattura e il tipo di pietra preziosa sono assolutamente in comune tra il reperto, la prova A e questi campioni presi dal cadavere. E il capovillaggio dice grazie venerabile Smergol, che è uno dei più anziani del villaggio. Bene, ora che vedo dire Scrausus. La corte. L'elicarosica. Ho il tempo di attaccare. La corte si ritira per deliberare. Mi serve la sigla di forum. Di verdetto finale. Ricorso, diffamazione. Dopo un po' ritorna. E tutta la folla si mette in cerchio intorno per ascoltare il verdetto. Ma ci sono anche i pareri del pubblico. Sì, e volete, quelli anche da casa. Sono, esatto, yeah. Ci sono i sassolini. Quelli dalla mia, dalla mia Giuliano ha votato i lupi. Grazie. Vuoi un martelletto? Vuoi? Ai sensi del bla bla bla bla, prese visione delle prove mostrate dalla difesa, l'imputato il signor Speranza, nato a di non si sa quanti anni, viene dichiarato non colpevole degli atti. Prego Marco, 5 minuti. Contro ricorso. Non colpevole. Non sì. Colpevole. Perché? Scusa, cosa è successo? Come non hai seguito. Ti sei perso. È un filmato, non devi vedere. Ha fatto vedere la gemma? No, ha recuperato le gemme che aveva lui, che avevano rubato lei, l'ha riportate addosso al Vistano, ha riportato il cadavere del Vistano con tanto di gemme a loro e a dire mi sono difeso, l'ho ucciso e guardate, ha le stesse gemme che c'erano sul luogo dell'incendio. E questi rincoglioniti ci sono cascati con tutte le pantofole. Come, scusa? No. Ti richiamo dopo pezzo. All'inizio ovviamente la sorpresa del pubblico fa partire un mormorio. Avrei giurato fosse stato quel farabutto. Presto, lascio spazio alla farabutto, tu comunque sei colpevole, Dario. Ma presto. Si vede lui che adesso stava bruciando un'altra casa. Ma presto lo stupore lascia spazio alla rabbia. Esatto. Uccidete! Yeah! E si leva una voce di uno che comincia a chiedersi: ma questo vuol dire che sono stati quei Vistani ad appiccare l'incendio, per quale motivo avrebbero dovuto farlo? Sono sempre stati i nostri amici. Amici, poi ti rubano la bici. Spesso abusiamo. Potevi autocitarti. Ma non è modesto. Tanto io vorrei che tu fossi onesto. Sì. Però tu dicessi. Visto che chiaramente gliela stai regalando. No, ha fatto la sua clamorosamente. Aspetta, non hai sentito una parte, forse gli ha dato un inspiration entrambi. No, come si sono solo comportati? A lui. No, visto che gliela stai regalando clamorosamente, vorrei che tu fossi onesto e dicessi certamente che se ci fossi andato io, fatto 26 prove sopra il 20, non mi avresti colpito. Siamo agli atti. Se tu c'è anche tua madre che è avvocato, chiedi se c'è qualcosa di fallato in questa cosa. Vedrai che dalla ragione. Se tu mi dici, sì, sarebbe andata esattamente così, io dico benissimo. La risata sguaiata che ha fatto, direi che basta come risposta. Non hai neanche seguito, vorrei che lui la mettesse. Forse addirittura se ci fosse andato tu sarebbe andata così male che avrebbero detto andiamo a conquistare Gretzky. No, è arrivato Vardistram, ci uccide, moriremo tutti, scappiamo da qua. Beh, è quello che di solito succede. Quindi forse sarebbe evoluto in un altro modo, ma rimaniamo invece sul presente. Non hai neanche seguito, esatto. E quindi c'è questo tizio che comincia a dire ah, ma perché, ma per come, non ci fidavamo di loro. Ed è in quel momento che me la sta regalando, però l'ho riscattato appena il regalo, certo. Marco, carisma 18, vado a dire a Darci, piacere, dillo tu. No, sì. Venga, c'è il talise. Io non sono in catene, accusa. Che cazzo c'entra? non sei imbavagliato, puoi parlare. Sendente. Vabbè, Marco è andato. Ah, ti prego, almeno tu. Ma raga, io ho già vinto la causa. No! Ciao signora. Sta regalando il master. Prendilo, prendilo questo regalo. Prendilo. E come... è giusto che la legge abbia trionfato e la giustizia fa il suo corso. Chiedo come d'accordi che ci vince. No, allora ragazzi, mi sta... allora, no, okay. Okay. Scusate, perché stavo guardando WhatsApp, mi spiace. Cosa che stai regalando, scusami? Cioè, andiamo con ordine, me la stai regalando. Allora, stai regalando cosa? Perché me la sono sudata con 7 camici, hai regalato cosa? Taci, tu hai dimostrato che lui è innocente. Loro... cioè dimostrato, hai fatto credere che lui sia innocente. Ha dimostrato. Sì, hai dimostrato. Hai dimostrato. Loro se la sono bevuta. E hanno detto, ah, loro sono stati vistani. Sì. Perché i vistani ci stanno attaccando? Un assist d'oro. Vedi che però non è abbastanza. Vistani, i vistani sono cattivi, non certo, sono buoni. Sì. Dimmelo! Ma l'ha già capito loro! Buoni. Andiamo a Krefk. Credo che ci sono i vistani. Certo. Sì, sì, sì, sì. Vabbè, è chiaro. Non è chiaro. Come non è chiaro? Vabbè, ve lo spiego io. Bravo, grazie. Ve lo spiego io. Il come vedete, questo villaggio è assediato e tartassato e vessato dai vistani. Noi invece vi offriamo un luogo che è assediato dalla bellezza, dal vino, dalle donne cristiane, una madre. Genitore uno. Aspetta. No. E quindi vi chiedo, oltre che scortarci, io posso anche offrirvi per, come segno di pace per questa specie di marachella che è venuta fuori ingiustamente. Ma se io posso offrire comunque, porgo l'altra guancia per fare... e vi posso, posso invitare non solo per farci perdonare, vero piccolo, non solo, non solo i dieci soldati della scorta, ma posso anche offrirvi, finché non si calmeranno le acque coi vistani, un soggiorno nella nostra ridente cittadina di Krezk, dove sugli alberi Krezk, pace e gioia. La sua generosità è grande, signor Patk. Il consiglio io insieme agli anziani. Marco, fai così, tu tira un dado e di che è una prova di persuasione. No, taci, tu fai così. Perché è andato allora? Perché? Voi l'avete esatto, attaccato all'altro facendo parte. Va e riempilo. Ho capito. Cioè, ti si presenta un'opportunità, la sfrutti. Va e riempilo. Non è che devi essere esperto in politica. Il ti stanno finito, dicendo, ah, forse questo posto non è sicuro. Cioè, balbuziente. Poi. E tu dici, sì, infatti, venite da noi, come vi abbiamo detto. Oh, Marco, la prossima missione diplomatica la fanno loro, sarebbe il caso, sì, cazzo. Sarebbe il caso, poi mi troverò piccato in arrivare alla di tribunale. Grazie, non avevo mai ricevuto un assist. No. Mai nella vita. Vabbè, cioè, che lui non ne ha bisogno. No, ci devi ricordare le prossime cose diplomatiche di mandarlo. Va bene, i vecchi si ritirano per prendere questa decisione. Ti prego Marco, fai una prova di persuasione, così, random, tira dei dadi. Cioè è un gioco per tirare dei dadi. Tira un cazzo di dado. No, no Marco, stai buono, siamo già usciti per miracolo. L'angioletto e gli ha voluto le spalle di Marco. Bene. Consiglio, una parola. Visto che mi avete Siete avere il diritto di poter dire qualcosa. Giulio, non essere invidioso perché Marco gioca. Verrai ascoltato, signor Speranza. Cosa hai da dire? Dai, chiedo che il mio assistito non venga ascoltato. Erano interessati verso la compagnia, non verso l'esterno. Chiedo l'infermità mentale. Anche il processo finito. Cosa hai da dire, Speranza? Voi siete in pericolo, in grave pericolo con tutti questi vistani. Grazie. Voi siete dei folli. No. Ora che ci penso. Ora che ci penso, siete in pericolo. Potreste essere in pericolo. E quindi? E quindi cazzi vostri, ciao stro. Tenete presente, oh. Dai, è ripartito bene, Marco. Chiedersi da morte, ad avanzare, venire qui e togliervi quel poco che avete ancora. Quindi vorrei che riflettete sulla possibilità di potervi rifare una vita, di poter andare a Krezk dove potreste ricostruire quello che vi è stato tolto. Non gli è stato tolto niente, quello che potrebbe venirvi tolto, diciamo. Una domanda, lasciando questi guardi a Krezk, in quel senso, ho capito. Vabbè, ormai sono lì, diciamo, in superiorità numerica. Va bene, fammi una persuasion con vantaggio. E poi in realtà... Ma anche con vantaggio. esistono gli dèi, fai un doppio uno, Marco. C'è l'amica di Salla che ha fatto la modella per il regazzino. 24. Ah, ho clear, tirato 12, 14 e 2. Vuoi vedere? 14 e ma 2. Anche per voi così figa lei? Beh, è carina. Sì. Ah, boh, è carino, è da, però è da, cioè, non così tanto. Salutiamo l'amica di Salla. Se ci vuole sponsorizzare cosa? Beh, in realtà c'è il regazzo di Bolo, cioè sponsorizzare. Magari, quanto hai fatto magari. Quindi? 24. Bravo Marco, vedi? Ok, il consiglio si ritira per prendere una decisione e dopo un'oretta il capo villaggio richiama a raccolta i villaggeri. Non ci voleva tanto, i villaggeri. I villani. Villici. Volevo ucciderli, volevo fare una mia montagnetta di terra. Ma perché volevi ucciderli quando ti è stato detto porta via Kresk? Non sono venuti. Non sono tra l'altro ha introdotto una dinamica a noi sconosciuta. Ruolare fuori da sessione. Cioè è apparso un messaggio e mi sono spaventato. Cioè ho detto cosa sta succedendo. Hai visto quelli che sono arrivati a me. Cos'è fuori da sessione? A un certo punto è arrivato un messaggio. No, ha chiesto a Katta varie cose immagino. Sì, va bene. Di riproporle a noi. Cioè ruolare fuori da sessione. Già non ruoliamo in sessione. Beh, non ha ruolato. Il capo raduna il villaggio e dice: per i poteri da me conferitemi. A me conferitemi dalla mia carica. Vi dichiaro marito e moglie. Cosa? Ops. Ho deciso che in questi tempi bui questo posto non è più sicuro. Bruciamo il villaggio. Prenderemo ciò che è di nostro di più caro e andremo verso ovest. E chiedo ai nostri gentili anche di portare munizioni, armi, ai tutto ciò che posso vivere una guerra. Gentili e validi tutti ospiti di accompagnarci lungo il cammino per raggiungere questa terra promessa. Poi la vedete voi dopo che arrivano. Vabbè, ma loro arrivano che noi probabilmente avremmo già saltato a cazzo di abbazia perché un riposo lungo l'abbiamo sicuramente fatto. Ora riposatevi e alle prime luci dell'alba partiremo. No, andiamo adesso, non c'è tempo. È troppo pericoloso e dobbiamo recuperare le nostre cose. E voi magari volete fare un riposo per recuperare gli incantesimi, tipo. Sì, sì, la devo fare assolutamente, visto che non si sa mai. Ah, tu hai le forme, giusto. Ok. Le forme le prendo anche un riposo breve, però devo Cambio scena che devo ascoltare una pezzata. Ok, quindi io rimetto tutti gli incantesimi. Quel coglione. Audio di Yak. Ah, quello che conosci tu. vabbè. Bene. Voi come eravate rimessi? Riassunto dell'altra sessione. Noi avevamo ucciso un teschio fiammeggiante e abbiamo fatto fare le barricate. E stavamo facendo fare le barricate e dovevamo riposare. Poi siete andati a riposare, ok, e poi vi svegliate riposati. Che cosa fate? Riposo lungo. Clamoroso, sì. Boh, sì. E anche un livello. Se volete riposare di meno potete farlo. No. Ok. L'hai detto, ma l'hai detto adesso. Un livello in più? Ormai l'hai detto. Stavi zitto, ma... Porca vacca! Ma che cosa? Non dobbiamo chiedere di salire di livello, se non saliamo di livello. Da. Ah, ma l'ha detto lui, l'hai sentito? Un livello in più ha detto. Pure non saliremo mai di livello. Perché lo no, per non puoi, sì. Ma non credo. Comunque ho fatto un paio di volte. Il prossimo gioco sarà più semplice, non ci sono i livelli. Quindi recuperiamo 3 da di ferita. Come si c'è il progresso? Non c'è progresso. No, cioè non è esattamente come Star Wars, ma più o meno, cioè prendi l'albero dei talenti. Prendi dei punti. Sì. O aumenti le caratteristiche, aumenti le abilità. Spendi punti esperienza per. Noi avevamo un accordo con gli altri per aspettarli? No. Allora dobbiamo semplicemente aspettare che gli altri gli altri avversari si facciano vivi, quindi l'idea è questa, cioè abbiamo barricato. Sì, sicuramente aspettiamo loro eventualmente per qualsiasi intervento. Quello che possiamo fare è chiedere ai corvi se vedono la situazione loro. Mandiamo una spia. Stiamo affamando i nostri avversari, ma i nostri avversari sono dei vampiri. Li stiamo beh, effettivamente dobbiamo bere sangue. No, possiamo chiedere intanto a un corvo di andare a vedere loro. Peccato che nell'abbazia ci sia la fontana del sangue. Interessante. E poi possiamo intanto vedere come sta Casimir. Kevin si è ripreso. Sì. Ma io sono al top, quindi. Cosa è saltato? Un attimo di dire. Che hai detto io sono al top. Questo mi ha fatto buggare tutto. No, non la testa. Perché lì è ancora ok. Potrebbe tranquillamente succedere, come succede sempre, che una certa fa così. Però come assaggiarle poco il forse. Ma in linea di massima, no, siamo ancora in diretta. La gente ad accoppiarsi con gli elfi. Il paladino ha qualcosa da ridire. Ma per cosa? Io non c'ero, fortunatamente. Sì, la morale del paladino in realtà è elastica, basta che non veda. Sì, infatti è perfetto. Che non ci parla per esperienza personale, Giulio, ovviamente. Così. Poi non nasconde mai niente, Giulio, però è un'altra cosa. Cioè, sì, no, ma io l'ho detto su. Non è vero, le cose più atroci le ho fatte che lui non le ha viste. Forse. Beh, come uccidere il bambino. Sì, sì. Il bambino non c'era. Ti ha visto solo mezzo alla città, un po', però. Vabbè. Però il bambino è vivo, quindi. È più che vivo, purtroppo. Niente, io non so. E anche i genitori iniziali dei bambini. Tu che sei il nostro leader indiscusso. No. Tu che sarai. Vado, mi fa comodo. Tu che sei il futuro governante di questa città. E. Ma è tornato anche qua, guarda. No, poi seriamente puoi chiedere. Abbiamo deciso, tu sei il nuovo re di Kretsk. E io sono la polizia segreta. Puoi chiedere. Io sono quello che porta il vino, se vuoi. Cosa? Il binario. Esatto. No, puoi chiedere se i corvi vanno. Io sono la mano dura della legge. Cosa devo andare a vedere? Uno dei corvi se vanno a vedere loro. Brooklyn Nine-Nine. E ci aggiornano. Allora, le barricate le abbiamo fatte, no? Sì. No. Cioè, le abbiamo fatte fare. Chi è pure? Cioè c'è proprio Van. Van Richten è scappato nella foresta. Inseguito dai lupi e voi l'avete lasciato. Chiediamo ai corvi di aggiornarci sulle varie situazioni. Allora, parlo con il capo dei corvi che si chiama Von Martinko. Von Martinko. Senza Von. Don Martinko. Corv Martinko. Corv Martinko. E gli dico. Di guardare sia loro che cercare. I vostri occhi devono essere i nostri occhi. E lo avete quelli che condividiamo. Di Quarizia bottega. Bottega. I vostri occhi devono essere i nostri occhi. Per prima cosa bisogna avere una idea quanto più chiara possibile di ciò che sta avvenendo alla fortezza. Per capire cosa tramano i nostri nemici. La fortezza intendi l'abbazia? L'abbazia, fortezza dell'abbazia. No, grazie. Ma io in secondo luogo, il nostro caro amico Van Richten e la sua pupilla. Ironico parlare di occhi e pupille. Sono fuggiti la foresta e seguiti carismatico, hai capito? Purtroppo il rischio che siano andati persi nelle mani, il rischio che siano andati persi è molto alto. Con carisma. Però se riusciste a identificare, a trovarli, potremmo provare a salvarli, forse, se ancora possibile. Riuscite a mandare qualche vostro seguace? Le tue parole valgono come al solito, sono piene di saggezza. Di vedere loro o andare a no, voglio vedere che cosa succede nell'abbazia e se troviamo Van Richten dov'è, sì. Perché eventualmente proviamo a salvarlo. Se va bene è invisibile, quindi ciao. Purtroppo lui no. Lui non può. Non sono più riuscito a ritornare in contatto con la nostra spia che di solito pattugliava l'abbazia. Non c'era deve essere successo qualcosa. non c'è la possibilità di inviarne una nuova? Beh, il druido può mandare un animale. Sì, possiamo inviare un nuovo perlustratore. È rischioso, ma sarebbe ottimo. Dato che non, però manda un popolano. Non è mai stato lì, potrebbe essere difficile per lui capire le informazioni che invece poteva avere uno dei nostri occhi che già conosceva il posto, però cazzo. Non costa niente. Beh, purtroppo, se ho capito bene, c'è poco da fare. Chissà che cosa è successo. Povera anima. Guarda come era bello. Esatto, era libero e felice. Vai più. Il suo canto non riecheggerà più in questa vallata. Appunto, come già la sua saggezza ci ha suggerito. Intesa come mia? Sì. Guarda, io ho saggezza 10, quindi. Beh, non è che io poi sia così saggio, 10 anch'io. Esatto. È un gruppo molto saggio. È stato abbastanza. No, Arthur, sì. Sottolineare il fatto che la perdita di un alleato come Van Richten potrebbe essere veramente un peccato. Un duro colpo. Il prossimo gioco non ci sarà più la forza, così. O la costituzione, sarà il vigor. Che vi schirrivete? Cosa sta succedendo? No, stavo chiedendo la cioccolata, niente su danno. Inoltre, finché si scrivono, Marco e Giulio si scrivono. Cioè, si stanno scrivendo, cioè. Finché si tratta di perlustrare un luogo all'aria aperta, come questi edifici, è di facile l'altro esecuzione. Va in bagno col cellulare e gli auricolari. Beh, grazie, se no sentivi il porno fino qui, cioè. Magari guarda qualcosa di interessante. Collega qua il porno. Siamo ancora nella vostra parte? Sì. Ancora nella nostra parte? Io l'ammazzo, sai. Ragazzi, dovresti imparare, dai. Sì, esatto. Come si gestisce un'aula di tribunale? Vi dice, invece, per riuscire a rintracciare nella due persone che sono fuggite nella foresta, Robin Hood e Little John. Esatto, è molto più complicato perché ci sono le fronde degli alberi che impediscono l'individuazione delle persone. Però anche è vero che i corvi possono andare. Sì, certo. E, no, lo il so, problema qual è? Che avevi qualche suggerimento? Il più tempo aspettiamo, ovviamente, più diminuiscono le possibilità di ritrovarli. Il problema è che andare a cercarli così alla disperata rischia di essere molto peggio. Sì, non abbiamo neanche una meta, dici, non è che stavano andando là, quindi no, possiamo provare... seguire le tracce. No, raga, ne stiamo in città. Però il discorso, finché non abbiamo risolto la storia, il discorso di... è che erano i lupi erano parecchi, se non ricordo. Più che altro, se usciamo adesso perdiamo la città. Tutto quello che abbiamo fatto finora è diventa inutile. No, lasciamo morire i popolani, la lasci in mano loro la città. A questo punto li abbiamo assediati, no, in una bazzina. Comunque ci abbiamo qua anche i corvi, cioè nel senso. Però. Sì, però a questo punto ha senso restare qui e provare a prendere la città. Il tuo consiglio in questo senso qual era allora? Non ho purtroppo una risposta semplice a questo niente quesito. Assist, esatto, ma è una gioia. Ci provo intanto a chiedere ai PNG, però di solito mi mandano sulle brutte piste. Sì, in effetti siamo qui anche a casa dei PNG. Inoltre purtroppo c'è anche da gestire il trasporto del carro, sì, con vino, le provviste che da, sta arrivando. È troppo rischioso farlo andare da solo, soprattutto dopo i recenti avvenimenti. Ma la pietra? Dove la c'ero io? Aspetta, non più. L'ho custodita gelosamente in attesa di trovare un luogo sicuro dove piantarlo. Manuale del giocatore, a me. Ce l'ho lì. Subito. Perché forse ho un incantesimo. Dopo comunque lì con loro. Okay. Forse ho un incantesimo che serve al caso. Ah, una toppa zombie. Divine. Non lo so. C'è un qualcosa. Adesso abbiamo recuperato metà dei dadi di vita. Sì. Cioè. che lui divinava. E io arrotondati per eccesso o per difetto? 3 per difetto. Aspetta che c'ho qualcosa. 20, 20, 20. Io adesso posso recuperare solo 3 di vita. Io divinavo. Beh, intanto facci sapere se della, sai qualcosa della. Manderemo una quello spia alla abbazia, sì. Per capire. Divine favor. E so con un fischio chiama un corvo che si poggia sul suo bastone. Ormai. Adesso Giulio cattivo! Gli bisbiglia delle parole nell'orecchio, e questo prende il volo per, diretto verso l'abbazia. Nel frattempo, Bardistran cerca. Mi pareva, ma forse sbaglio, di averlo un incantesimo. Vabbè, io faccio un sopralluogo alle fortificazioni. Tanto esatto, se ci dai qualche informazione su quello. E vedo come hanno fatto il lavoro. Posso fare la mossa. Hanno creato una barricata lavorando. No, vedo se è fatto bene. Se non è fatto bene, non glielo faccio rifare. E di meno. Forte. Sono molto orgogliosi della loro creazione, anche perché hanno speso tutta la notte per farla in tempo. Faccio un'investigation per capire se ci sono punti deboli. E hanno tagliato appunto un po' di alberi per fare un po' di legna. E 11. Va bene. Hanno eretto questa barricata che è vabbè, decente. Né più né meno di quello che è una barricata. Passabile. Insomma, fa quello va fortificata adesso. Ulteriormente. No, sì. Di certo non è che è in grado di trattenere chissà quale assalto. Soprattutto da creature che hanno movimenti del ragno. Ma quello è un altro problema. No, in realtà non ho cazzo. Posso invocare la mia alce? Va bene. Aspettate. E se fai costruissimo delle catapulte? Come? Su degli alberi. Ti mi sono perso. Cioè. Sì, ma. Che ne so, se c'è qualche ingegnere. Il corvo torna dopo aver perlustrato. Sapete cos'è una catapulta? Una cosa? Beh, però allora aspetta. Tipo una quelle cosa che la sono fuori. Una cosa la potremmo fare. Comunque. Ah no, aspetta, però potremmo vedere se. Ah no, il libro però ce lo marco. Se le tracce verso il bosco ci dicono che. Cioè, tipo, vediamo tipo il corpo di Rictavio Ivan Richten sbranato alla fine del bosco, probabilmente non ha senso cercare. Vabbè, ma chiediamo di mandare due corvi che fanno dei giri sui limitari della foresta. Cioè. Chi è? Tu vai a seguire tu hai sopravvivenza. Sì, però in che cosa volevi fare? Vieni con me. Andiamo a vedere un attimo fuori. Quindi gli intorni. Sì. Controlli nella città. Per capire cosa è successo qui. Sì, fuoco e fiamme! Sì. Io posso aiutarlo. Ok, organizzo delle arene gladiatorie. Non mi ricordo. Se anche sarà, per sopravvivenza. Sì. Che no, sarà il nuovo business della città. C'è l'alce? Altro che le fosse di Astapor. Posso avere l'alce però effettivamente. Posso usare un incantesimo per rivocare l'alce. L'alce avrà un udito. Cioè è un animale l'alce. Comunque. L'alce che io provo ad addestrare qualche villico. Io penso che tutti gli animali sono troppa di fedeli mongrel. No, in realtà sono fedeli. Sono fedeli. Voglio i miei. Vai i tuoi fedeli. E va bene, ci sono quelli che hanno costruito la barricata che sono lì stremati da una notte di lavoro a tagliare legna. Beh, magari non quelli che stanno. Sono loro i più attivi, perché sono gli altri che fanno i loro lavori per mandare avanti la baracca. Manuale dei mostri. C'è Giant, però ci dicono signore, contento del nostro lavoro, ma adesso ci possiamo riposare, vero? Certo. Dopo che avrete battuto me. Cosa? Come scusa? Cosa sta? Ci siamo distratti un attimo? Siamo fuori, Giulio sta creando il caos. No. Chi l'avrebbe mai detto? E gli lancio una spada. Ma veramente lo sta facendo? Che pazzo. Ma siamo già arrivati lì? Gliela lancio. No, gliela lancio a terra. E in entrambi i casi. Sta uccidendo. Signore. Allora, noi siamo usciti per vedere un po' le tracce di Van Rick. Non so usarla. Appunto, intorno rimaniamo. E lui è rimasto da solo, è andato da quelli che hanno costruito le barricate e gli ha detto: ora potete riposare, ma prima dovete battere me. Gli dà una spada. Perché? Mi voglio addestrare. È Giulio. Buccia pazzo. Sono caotico malvagio, ragazzi. Fatemi fare. E poi mi lamento. Ma aspetta, fallo. Tu non sei caotico malvagio, io posso. Ma fa queste cose con lei. Che non ha delle skills. Vabbè, allora no, prima so di cosa fare, sì. Che armi sapete usare? O evoco. Di solito ci addestriamo con l'accetta. Niente. E la domenica facciamo qualche gara di tiro al bersaglio. Che è un animale. Bene, con gli archi vi ho già visto, vabbè. Ma adesso corpo a corpo importante. Non ha abilità. L'accetta, potremmo fare un upgrade e arrivare all'ascia da battaglia. Signore, non capito, abbiamo l'ascia da battaglia nel villaggio. C'è un fabbro. Vabbè, ma non è solo seguire tracce, survival, è anche solo annusare, sentire che arriva un predatore. Fa ogni qualche lavoretto, sa riparare le cose. Cioè sa fondere il metallo e battere. Non abbiamo una fucina per. Le accette, come le fate? Sì, non sì, è proprio certo, la parte abbiamo skills, una non, piccola no. C'è solo una, c'è la un piccolo forno in grado di vabbè, cioè, lega, non è che dobbiamo armare un esercito, ragazzi, dobbiamo trasformare delle accette in accette da battaglia, non è che ci voglia chissà cosa, puoi insegnarcelo al signor Atanas, allora un'accia da battaglia, quante cose non, so che limite hai. Non credo. Cioè, vedi, cioè oddio, io so come è fatta una battaglia, so anche maneggiarla, non la so, sai costruire. Non la so, non, so come si costruisce, non la so personalmente costruire. Giant Tank è fortissimo. Cioè, come guerriero so come, come, fa, come viene fatta una battaglia, non la so effettivamente, però so come dire al fabbro, guarda, la lama deve essere grossa così, al posto della laccetta, di quella della laccetta, deve essere più, più ampia, deve essere il manico più lungo. E come fa a crearlo? Fonde due accette, due, cioè c'è il ferro, perché se fa le accette, ok, e no, quindi tu dici ti basta fondere una contro l'altra e è alla fuori. Base della guerra, no, riconvertire le aziende, le industrie, fa le industrie. No, non è a stampo, si batte, non c'è lo stampo, quindi lo batte alla forma più ampia, ovviamente gli serve più materiale, quindi ne so, se gli manca prendo due accette, però comunque questo è un progetto a lungo termine, torniamo all'uso delle armi. Signora, non riesco più ad alzare le braccia, sono stanchissimo. Vabbè, effettivamente non abbiamo abbastanza spade per armarvi tutti, quindi è inutile che io vi faccia combattere con le spade. Per dare dei bastoni, non lo so. Ecco, è Arci che arriva. Puoi addestrarli come arcieri. Prendete le accette. Puoi addestrarli come arcieri, però. Va bene, sono lì che potrei evocare un mammut, però non è vero. Prendo anch'io le accette, delle accette. Anche il mastino. Beh, poi tra l'altro le hanno appena usate per tagliare la legna, quindi datemene due. O non ne avevo un cazzo per ora. No, ci consegnano due accette. Bene. L'alce ce l'ho. Royal Rumble. L'alce ce l'ho. Niente. L'alce ce l'ho. Bene, dovete colpire. Non avevo considerato. Vai, questo per si guardano sì, imbarazzo è un po'. Sta combattendo con dei popolari. Un po' increduli. Sì, uno sta facendo quello. Vabbè. E uno prova a sollevarne una a fatica, perché ormai ha le braccia che. Perché di fare? Io sono non si sentono più. Perché fare il bullismo? Io voglio insegnare a combattere. Vabbè, ma okay. E prova perché, a menarti un fendente con svantaggio. Perché, sta cercando il Jon Snow della Citra. Due. No. Il suo attacco è talmente pietoso che ti viene da ridere. E hai svantaggio. Guarda, bene che ti sta tirando anche lui. Perché? Ma fai finta. Sì, non gli faccio danni. Gli farò danni non letali se gli becco. Ma mazzo uguale. No, danni non letali non posso ucciderlo. Se gli fai 7 volte GPF, sì. No, sono colpito solo due volte. L'altro è. Che l'ha ammazzato solo 10. 10 al becco. Sì, 10 al becco. Ma quanto fa? Non accetto. Fa un di 6. Quanto gli tirava addosso? Un di 6. L'ha ammazzato solo due volte. Un di 6 ce l'ho io. Sono 9 più 12, 21. Danni non letali. Ok, quindi con l'ultimo colpo decidi di farlo svenire invece che di ucciderlo. E questo cade a terra privo di sensi e la gente intorno sgomenta e ti dice ma povero povero John, cosa hai fatto? Oddio, ho chiamato un'ambulanza. Un medico. No, era... si chiama un'ambulanza. Ha solo ricevuto una botta troppo forte, ma non è un pericolo di vita. Che epoca sia. Cosa ha fatto per meritarselo quella? Che siamo fuori, vediamo. No, infatti, siete stati bravi, però dovresti imparare a combattere. Tu, attaccami, questa volta lascio... Perché siamo appena fuori in città. Questa volta lascio cadere le accette. Noi che siamo appena fuori città, vediamo le ambulanze tanto che arrivano. Sentite le sirene. E lui dice: no, non voglio. Lascio cadere l'accetta e sto così. Mi farà lo stesso malissimo, lo so già. Attaccami. O ti farò più male. Disperato, prova a toccarti di nuovo. 9. Dai, stando così fermo, non gli tolgo lo svantaggio. Hai ragione, gli togli lo svantaggio. Dai. Oh, critico, grande. È contento di subire un critico. Che incredibilmente. Male. Ti colpisce. Stranamente i tagli del master fanno un critico, però non ne fa tempo. Ben 5 danni. Okay. Scusa, ma non c'hai mani nude? Sì. Ah, non li schiaffeggi così. Marrano. Allora, quindi è 10, 13 e 19. Gli dai tracce fuori, esatto. Ben assestati. E quindi sono 15 danni. Neanche lui, ovviamente. No, lui, se gli faccio 10 sta su. Non mi ricordo quanti punti vita ha un popolare. Beh, sono molto forti. Non riesce a colpire Giulio? Curioso che quelli che ci stessero a caccia la mia moglie hanno fatto un critico. No, gli ha fatto un critico. Ok. Avevi dei dubbi. È solo che Giulio con tre ceffoni l'ha fatto svenire. Beh, quelli dell'altra volta non sembravano così facili da tirare giù. No, sono ancora dei guerriero di 15 livello. Ma dei mostri. Ah. Beh, che l'altra volta avevano 30 di vita anche è un meno. Mostro pure. Sì, è un mostro. Avanti molto con 11 PF. Beh, lui mi ha chiesto se 10. Lo segue. Non è un summoner. Sarà lui di 4 PF. No, come 4 PM? Cioè, non posso neanche fare in uno solo. Esatto, l'hai già steso. Perché? Vabbè, sono un po' affranto, anzi, sono molto sconsolato. Gli altri se ne vanno impauriti per paura che tu li vieni. No, comunque sono... aiuto i due che ho abbattuto. Okay. Lo riprendi su e dice, cosa è successo? Poi ne riparleremo un altro giorno. Fa male dappertutto. Dappertutto, ti ho colpito qui, qui e qui. Ma loro hanno anche il lavoro che hanno fatto perché voi. Sì, e io ho combattuto, ma non mi lamento con una femminuccia. Beh, sei un guerriero di settimo livello. Quindi? Temprato dal fuoco di loro, dei contadini. Gne. Ti ricorda che livello siamo? Un po'. Vabbè. Bene, voi uscite. A sto punto aiuto qualcuno a fare qualcosa. Che bravo. Aiuti sì, qualcuno a fare qualcosa. Dico no, no, siamo a posto. No, no, insisto. No, ma rimani insisto. Pure sul vago. Insisto. E... ah, vado a trovare la tizia che aveva partorito. Sì, sta bene. C'è un bel pampino baffuto. Ti prego, Catta, fai il cambio di scena. Vabbè, vai da loro. Sì, voi uscite. Ma continuo a fare danni. Siete solo voi? Non ho fatto nessun danno. E l'alce o volete anche... Io ho ucciso. Anche l'alce. Anche una scorta, non lo so. Di cosa? Di popolani svenuti? Esatto. Mongrel. No, magari... No, perché mongrel è un corvo dall'alto. Va bene. Che al massimo ci avvisa. Vi viene mandato un altro corvo che vi segue. I corvi sanno combattere. Se non sei d'accordo. Corvi, gli animali. I corvi, gli animali. Ascolta, io faccio... Se difesi, se attaccati si difendono. Vabbè, anche un animale. Se vabbè, è uguale. Cioè, nel senso... Boh, facciamo cerchiale tracce. Mano e prego. Cerchiamo le tracce. Possiamo fare. Cioè, solo un survival per cercare tracce o anche il perception. Survival. Aspetta, survival. Vabbè, io mi recupero. No, a me va bene. Mi recupero la vita persa facendo. Ah, ok. Allora posso. Io al massimo persuasion. 17. Faccio second wind e recupero la vita. Cerco di persuadere la terra a darmi un sedato. Tanto poi riposo breve mentre mi aspetto. Quanto hai fatto? Non ho ancora tirato. Ah, io 17. 17. Survival. Tirerò anch'io. Sarà un 16. Trovate una serie di impronte che si addentrano nella foresta E vedete che ci sono quelle di appunto, tre paia di stivali, tre stivali e un legno e un sì, e un'impronta di una protesi, sì. E seguite da una serie di zampe di lupo, tutte quale? Uguali. Arrivano al limitare della foresta. Arrivano al limitare della foresta. Il corvo che è con abbiamo voi, visto che entra, possiamo tornare in città. Il corvo che è con voi gracchia e vola in una un'altra direzione e vi fa vedere che dal se c'è forse dalla latta la notte, no, vabbè spiegaci. Praticamente si vede che dalla dall'altra parte della spianata intorno alla città, quindi dalla foresta opposta dove siete voi, cioè, siete qui di fronte? No, si vedono cominciare a uscire dagli alberi barcollando qualche zombie sparso qua e là. Sono lontani centinaia di piedi da voi, chiaramente. Ecco perché, non sono ecco un, perché il master ha detto volete una scorta. Ci penso. Era un assist, non sono non un pericolo colpa per voi, anche perché sono lenti e stupidi. Però evidentemente vedere del movimento li ha attirati. È il momento di ucciderli. Scherzi. No, scherzi. Con il no qui in fondo. Li ha attirati perché cercano cosa cervelli da mangiare. Io sinceramente no. Non mi sembra una grande idea. Non mi sembra neanche a me. Per il momento rientriamo. Ok. Poi ci pensiamo. Però per ora temo non riusciamo. Quando se arriveranno con gli elfi manderemo loro e poi andremo a recuperare. No, vabbè, allora andremo manderemo gli umani a recuperare gli elfi, i corvi a recuperare gli umani. Cioè, effettivamente primario sarebbe diciamo essere. Hai mai dato un corpo da loro? No. Va bene, ritornate dentro e zombie che erano usciti sono, cioè, sono rassegnato in realtà, però sono delusi perché il loro pranzo è fuggito e quindi ritornano nella foresta a cercare altro cibo e niente, il corvo mandato all'abbazia non ha trovato segni di vita. Non ha trovato segni di vita? Vabbè, sarà dentro. E segni di non vita? No, devi cercare progenie. Ah no, progenie ancora sarà dentro, credo. Vabbè, è giorno adesso per no, è vero, forza, c'è il discorso della parola. Se altro c'è il cazzo di tizio che si trasforma in un angelo gigante, dovremmo aver visto volare via in caso. In questo giro che ha fatto adesso non ha visto nulla. Beh, insomma, via meglio. Noi stiamo pure tu dici ieri. Noi sappiamo che sono andati all'abbazia. Sì. Se fossero scappati all'abbazia, almeno il tizio volante angelico. Considera che la visibilità fino a su, tanto che c'era la tempesta di più con tuoni, fulmini, la pioggia, non era così ottimale. Quindi non ne avete la certezza. Per il momento mi sa che dobbiamo attendere. Però mi dispiace un po' rimanere fermo. Cioè, o proviamo ad andare a stanarli? Noi tre. Ah, ci sono anche due popolani. Noi tre, 12 mongrel e 30 popolani. Esatto. Abbiamo tutto il, come si dice, i feed. Non abbiamo incantatori. Abbiamo il coso, come si chiamano? I curatori, aggiungerei. I minion che ci servono. Noi abbiamo neanche di solito i curatori. Non lo so. Cioè, è uno scontro difficile anche esserci tutti. No, esserci tutti non è così difficile. Beh, comunque impegnativo. Sì, in tre è quasi proibitivo. No, nel senso che è chiaro che se noi vedessimo che nell'abbazia non ci sono, prendiamo il controllo della città e allora ne possiamo andare a cercare Varrick, magari liberiamo almeno dagli zombie. Puoi provare a avvicinarci. L'alternativa è non possiamo andare noi, nessuno di noi, però cioè potremmo mandare qualcuno a cercare, tipo lui potrebbe mandare il suo famiglio, però dobbiamo aspettare lui, perché anche se il suo famiglio l'ha lasciato a noi, noi non possiamo dire al topo ehi topo vai, ci mandiamo un alce. Io e la mia famiglia non resterò lì ad aiutarvi e a guardarvi. Appunto, cioè noi non possiamo dire al famiglio vai a esplorare. Possiamo lanciarlo. Non c'è. Cioè sarebbe Race, ma non c'è Race. Lo leghiamo a una freccia. Aspettiamo, cioè, non abbiamo tanto. Potremmo liberare i boss, cioè l'inizio dei boschi dagli zombie rimasti. Quello potremmo fare. Liberiamo intanto un po' il territorio in attesa. Ma se mai possiamo. Cioè anche solo per il vino che arriva, sono un po' la rottura. Onestamente, zombie. Secondo me cercare Van Richten ci può stare. Anche addentrandoci qua nella foresta. Che se c'è becchiamo tutti i lupi mandati. Che se andiamo tutti e tre. No, è stupido uscire e lasciare la città. Esatto, tutti, sì, no, tutti e tre non possiamo farlo. Cioè. Hai ragione. Possiamo liberare un po' il bosco qua dall'inizio del bosco dagli zombie. Perché comunque quando arriverà il carro. Ma quello si può fare. Basta che qualcuno si spinga a limitare della foresta, aspetti che gli zombie arrivino vicino e piano piano va verso la città. Gli zombie lo seguono e noi aspettiamo lì e ci andiamo. Senza neanche andare alla foresta, sono loro che li attiriamo da noi. Ok. Sì, poi magari a un certo punto verranno anche, potremmo attirare lupi mannari e cose. Poi arrivati così vedo tipo 20.000 lupi. Ah, ok. E barricate a sto. No! Sì, proviamo. Non siamo ancora arrivati lì. Voi siete partiti anche voi alle prime luci partiti. Noi ci siamo svegliati, voi siete partiti. Voi ci mettete. Era una cosa come 6 ore, 4 ore. Anche adesso non andate più. Spediti a cavallo. Con tutta la carovana degli elfi ci mette un po'. Beh, io sono a cavallo di un arcio. Tu sì. Quanti arci ci sono in giro? Nel senso che posso andare in giro a una cavalcatura, come cavalcatura un arcio. Tu la dici per attirare i zombie, no? Io dicevo no, per andare quanto ci mettono loro ad arrivare. Scusa, qual è il problema di uccidere gli zombie? Non mi ricordo. Che ha un sacco di punti ferita? No, una trentina, non neanche tanto. Beh, sono isolati. Dai, andiamo a ripulire dagli zombie. Cioè che io li attirerei verso le mura per stare sempre vicino comunque alla città. Tanto loro sono loro che vengono addosso se ti vedono. Sì, sì, va bene. Stiamo lì e facciamo aspettiamo che arrivino. Vai. Ok. Voi partite dal villaggio degli elfi la mattina presto. E loro vi dicono che conoscono una strada sicura che taglia attraverso la foresta. Lo dicono tutti. Esatto. E potete seguire questa strada e riusciremo ad attraversarla senza avere particolari sorprese. Mi siete piacciono d'accordo? Le bevande ultradense, tipo la Guinness. Ah, giusto. Beh, interessante, mentre loro sono in viaggio, qual è il vostro piano per decimare gli zombie? Usciamo da Kretsk, qualcuno si spinge un po' più vicino alla foresta. A cavallo dell'alce, direi. Aspetta che si avvicinino, che ci vedano e noi li aspettiamo lì vicino alle mura. Ma li aspettiamo, tanto siamo usciti un attimo e sono arrivati, li aspettiamo. Ti devi avvicinare un attimo alla foresta per farti sentire e poi torni indietro. Dicevo, lo fai tu a cavallo dell'alto così sei sicuro di. Sì, sì. E io mi prendo 20 fire rate 3 di frecce, perché hai detto che c'erano tutte le frecce che volevo. Sì, quante ne vuoi. Sì, direi che ci riforniamo tutti di frecce e spariamo mentre ci avvicina. Ma gli archi non li avete? Sì, ho preso anch'io dopo colpo. No, tu che ce l'hai lo so, perché a un certo punto ce lo siamo passati. Me lo rubavi sempre, Giulio. Adesso ce l'ho anch'io, non te lo devo più rubare. Io potrei usare anche l'arco lungo degli elfi. Beh, scusa, ma prendi comunque quello di Vezza, è più bello. No, beh, un arco corto. Beh, facciamo sta cosa. Ma c'è poco da dire, nel senso, tu quindi fai da esca, li galoppi intorno, mentre gli altri dalle mura al sicuro gli lanciano le frecce, questo è il piano, giusto? No, aspettiamo fuori, solo che mi prendo le frecce perché mentre arrivano io lì. Poi dopo li ammazzuolo con la spada. No? Ah, quindi li volete affrontare in corpo a corpo, va bene. Non l'avevo capito. Sì, beh, sono aspettando la vita. Ok. Cioè io intanto li attiro un po', poi un po' vedo come si muovono, se magari vado su uno e comincio a colpire. D'accordo. Mentre voi altri arrivate a... Cioè starò lì a 10-20 piedi dal portone. Qua. E qua. Qua. Oddio di nuovo. Da qui a qua. No. Allora devono andare da qui a qua. È grammaticalmente giusto, non è? Cina. Che succede? È andato a lavare qualcosa. Kata sta pensando. Okay. Shio sta lanciando un dado inutilmente. Sì, e non ho ancora fatto 20. Però ho fatto due volte uno. No. Hai un 5%, dai. Hai fatto almeno due volte 19. Aspetta, prima devo verificare una cosa. Marco, tirami un di 20. Mai. Mi sa 9. Se facevi 20 era come 9. Vai 20. Ok. Un sacco di volte. Arrivate. Attraversate la foresta. E arrivate al bivio sul fiume. Il fiume del corvo. Niente. Adesso l'unico 20 che potevi fare è scaricato così. Non c'è nulla di pericoloso che incrocia il vostro cammino. E io ho ripetuto gli incantesimi. Sì, avete fatto un riposo lungo questa notte. Si è svegliato, hai svegliato Archie, vedi? Guarda, scusa. Il mio cazzo. Il tuo cazzo. Il mio tazza. L'hai perso? Cazzo? Avevi finito, Arci, sì, ho portato via. Non me l'hai riempita? E Arci, la prossima volta se vuoi ti faccio la cisterna, però no. Le tre tazze e una cisterna, vero? Ho capito, così io sono due tazze. Va bene, vai Vardistran, fai quello che vuoi fare. Io mi si chiede sul re. A voi col panettone, vado lì, faccio Coca-Cola. Monde creature, mostratevi! Beh, non voi esattamente. Niente. Va bene, tiro un dado percentuale. Un dado percentuale per vedere quale monde creatura si palesa. Esatto. Un drago. In realtà di Komodo. No, un drago, dai. Gora catch em all 29 o 26. Come fai a dire che è un nome russo? Non lo so, non lo so. Dipende da che lato è del dado, sono dispari da una parte. No, perché di questo è il 6, no? Perché se ne giri 8. Sì, onesto. Sono dispari da una parte e dispari dall'altra in quel dado. Io potrei aver letto dei 6, dei 9, vuoi dirmi? Quindi comunque devi sempre guardare dritto verso la punta. Sceo, vedo che sei molto ferrato in questa materia. No, potresti scriverci un trattato. Un trattato. Come leggere i dati. Esatto. Autore Stefano Gamberoni. Un test condotto su almeno 10 dati. Sopra si mette sempre la punta. Dimostra che i numeri sono... numeri. Nello stesso numero. Se pietre sono pietre. Vedi, è sempre la punta. Salute. Uccidere pene. Uccidere tutto il bordo. La punta va sempre in alto. Non so. La punta va sempre in alto, certo. O no? Questo. Nel 2019 il 70% degli americani è stato attaccato da Bear Grylls. Squali. O il master allergico alle cazzate, stasera sono troppe. Squali, balena, squali. Ma dove? Potremmo scrivere un trattato anche di simpatia. Ho trovato un'app per farle vendere la palla. Qual è la bestia che ho svegliato? Troppo a fondo. Adesso lo sai che comunque non ti manderà mai più cose di legno contro. Perché avendo l'accetta giusta, adesso te le manderai di qualcos'altro. Guarda. Troppo a fondo hai cercato. Ci sono 13 zombie che spuntano dalla foresta. Hai risvegliato un kraken. 13 è la fede per quella si vuole. Perché non potevi dire 12 o 14? Perché gli hai detto proprio 13? Appena sono agitata, inizio a sparare. No. 13 zombie. Allora era un 26. Che cosa fai? Dice: venite in mondo creature, seguitemi. Ok, loro ti seguono. Hai il fazzoletto? Una volta l'hai visto? Sì, ma senza il fazzoletto come un cielo senza stelle. Aspetta. Ma sono tutti gli attaccati o sono sparsi? No, sono tutti sparsi. Staccati. Bravo, cacca. Allora li faccio avvicinare finché non sono, diciamo, una distanza adatta per loro. E poi? E poi dopo vado sul lato e ne attacco uno. Va bene, allora, tiratemi l'iniziativa. Vantaggio 15. No, anch'io 12. No, prima io hai fatto 12, ho fatto 15. Meno. Fatto 15. Siete prima a voi. No, ho detto prima io. Cosa c'è? L'ho detto prima io. Inizio prima io. No, prima io. Tirato prima io. Chi tira per primo inizia. Non c'è l'iniziativa. Il Lex Arcana non c'è l'iniziativa. Ah, Giulio, cioè iniziativa. No, non c'è proprio. E quindi come funziona? Prima iniziativa. Anzi. That's per ultimo. Questa era per ultimo. Prima il master. I giocatori decidono chi inizia per primo. Poi Sgherri. Tira in risa. Non devi pensarlo come collaborativo, lo sai che noi roviniamo tutto. Oh, gli sgherri. Quindi era in rissa solo perché giocherà per primo. Cioè, inizia prima chi non è ingaggiato. Mm-hmm. Perché ci sono gli inganni, tu per combattere con un ragazzo che non sei ingaggiato. Non so. Non avevo notato che fossi, sto proprio sotto le coperte. Poi dopo sta... Beato lui. Perché sotto è nudo, non è FK. Catta, ma non ci hai detto che cambia lavoro. Ah, è vero. Sì, Catta cambia lavoro. Non c'è a darci, sì. Sì, allora come fai a saperlo? E noi l'abbiamo detto a te. Finalmente fai. Come si dice? Realizzi il tuo sogno. Porno attore, no? No, purtroppo no. Fai l'ispettore. Quindi, sì. Metà gennaio. 20 gennaio inizierò un percorso di formazione che lo porterà a diventare, auditor. Diventare auditor è una classe di parliamo di Harry Potter o Auror. Esatto. Raga, a me spiace dirlo così, invece fare il barra scena catta. No. Però è giusto che lo dica. Purtroppo devo andare tra poco. Sì, vabbè, sì, ma effettivamente adesso faremo questo. Puoi andare anche da solo. Vabbè, vai, se devi andare, vai. Ciao, no, pazzino. Ciao, va bene, ciao. Hai fatto la scena catta, sei contento. Sarai con... sei la mia, però. Sarai contento. Io pure parlo del tuo lavoro, del tuo futuro. Non si offende nessuno. Quindi, scusa, cos'è un auditor? È un ispettore che va in giro nelle aziende a fare le ispezioni. Ma quello che lui subiva, dopo lo farà lui. Dopo anni aver imparato a nascondere. Esatto. Dopo anni aver imparato, adesso saprà dove cercare. Dopo aver nascosto. Ma sembra che lei sia il miglior nasconditore di irregolarità. Quindi vogliamo assumerla. Come falsare. Beh, sono messo questa cosa. Anche gli hacker, quando un hacker bravo. Gli hacker e falsare. Avrà di nuovo la finina penale. Avrà di nuovo la sua finina penale pulita. Anche gli hacker. Anche gli hacker. Lui li sente quando li sente. Anche gli hacker, anche i falsari finiscono poi a collaborare con FBI, vero? Tu... In tutto questo non ho capito cosa va a fare cazzo. Va a fare l'ispettore di cosa? Di azienda, di sicurezza. L'ispettore cazzo. A verificare che le aziende siano a norma. Google cazzo. Più o meno sì. È quello, però adesso sarà andrò a regime tra un bel po', mi sembra, almeno un paio d'anni. Vabbè, non ti tira, no, cioè nel senso. Tu presentati già. Sì, hai ragione. No, chiaro. se mi devo vendere bene lo faccio con voi, invece dico che sarà una valle di lacrime, quindi spesso dovrò andare in trasferta. Quindi vendere bene vuol dire che prendi le mazzette. Quello è quando fai carriera. Quindi prima invece. Ah, quindi dopo offri tu. Esatto. Okay. Va bene, va bene. Sta amici. Sta a te, sono. Sì. Ma questo a te, no. Abbiamo fatto lo stesso. Chi decide che aspetti, sta lui prima di me? Sì, perché sono io che prendo l'iniziativa. Se si fa dare le tangenti, è minimo che è. Così. Le ma se io impazzisco, se voglio caricare, c'è scritto: non si accettano i doni legali particolarmente. Va bene, va. Preziosi, e gli altri vanno divisi tra tutti i colleghi di lavoro. Nessuna paura per l'alce. Mm-hmm. Alce in carica. Non mi ricordo un nome. Adenon. Sì, Adenon. Tu proprio dovresti sapere. Adenon. Hai ragione. E terzo. Adenon. Terzo. No, ma è sempre quello. Cioè, non è che muore veramente. Una creatura evocata. 23. Per colpire? Direi che colpire. Con carica. Che tipo di danno è? È un attacco di ram. Bludgeoning. Bludgeoning, ok. Like, cioè, tu considera che la chat della pale è ormai diventata una guerra di meme? No, perché adesso semplicemente io metto la meme per l'orario e adesso non è questo. Quindi non avevo la meme, non la l'app. Aspetta, 5, adesso 5, che ce l'ho, 7, trovare, giusto. 10 danni e lui fa un tiro sulla forza. Sì. Lui sicuramente lo fallisce. Dipende quant'è. Vado 2 col danno. 3. Allora lo fallisce. Ed è prono. Lui è prono, ma non solo quello, perché ha ricevuto più di 5 danni contundenti. Perde un braccio. Perde una gamba. Una gamba. Oh cazzo. E quindi c'è un cazzo. È un casino perché la gamba poi comincia a fare cose. C'è una gamba, una cosa, che comincia a zoppettare indietro. Poi ci sono io. Zoppettare indietro. Mi conviene usare la magica, giusto, con gli zombie. Oh, non cammino. Ah, allora fa un spadone e. Non sono fatti di legno. 19. Colpiti. Hanno 8 di CA, non è che. È difficile. Basta che non fai uno. Se vuoi, non tiro. No, devi tirare, ma non devi fare uno. 7 più 4, 11. Danni. Taglienti. Si stacca anche l'altra gamba. Ma quando è prono? Quindi sì, avevi anche vantaggio. Oh, vantaggio. Quindi e tiro un altro attacco. Ho due attacchi. Quindi c'è, sono due gambe. Era anche il vantaggio di quello di prima, poteva essere critico. Se senza gambe resta sempre prono adesso. Sì, questo è il vantaggio di quello prima. Questo invece è un 25. È prono, sì. Se ha entrambe le braccia può ancora strisciare. Si ritira. Carol! 13 no? Danni. 13. Tra, segato. Sa che il primo è andato. E la prossima? Garrosh. Andremo da un'altra parte. E quanto sono? A io ora sono 12. Ti eri posizionato tu. Quindi puoi esserti posizionato in modo da erano tutti a circa dove compaiono loro. Perché inizio a verso non io. Eravamo circa 20 piedi. 50. Perché inizio a verso non io? Sono a circa, ti direi 70-80 piedi. 70-80 piedi? No, ma io ho aspettato un po', no, però non cambia niente. Sì, aspettato che andasse, che arrivassero almeno in gittata più o meno. Sì, no, perché loro sono. Vabbè, allora intanto comincio a sparare con l'arco corto, poi vedremo. Va bene. Atanas, intanto puoi andare, anche lo devi bloccare. Vabbè, il primo è un 1 col dado. Arco corto. Secondo è un 11 e sono un D6 più 2. Becco con 3. 4 danni. Ok. Perché tu ne tiri 3? Ah no, sono 2 giusto. Però comunque becco con 2. Non hai l'arco. E domanda, posso non segnare? Non ho 4 mani. Non segnare le munizioni, tutte le frecce che vuole. Ok. Così non stiamo a diventare matti. Ma cosa stai facendo chi? Gli zombie fuori dalla città li finiamo. 9 danni. Da che siamo lì per tenerci allenati. Potevi prendere dei popolani. Così li faceva tirare qualche freccia. Due io menati e gli altri sono giuri spaventato. Gli altri sono stanchi. Okay. Che sanno, ora vedo un consiglio e dicono potrebbero raggiungere gli elfi. Fermi. Ma gli elfi stanno venendo. Lo sanno. Si allenano per fare dare, ma gli elfi. Tocca agli zombie e si avvicinano verso di te, ma sono più lenti, quindi sono ancora a 30 piedi. 30 piedi. Bene, io ne voglio attaccare uno. Tutti, quello più vicino è a 30 piedi. E tra di loro, cioè sono tutti attaccati? No, perché detto che erano sparsi. Sì. Bene, attacco uno che è a 30 piedi da me. Cioè quello più vicino in realtà. Attacchi quello più vicino. A patto che sia almeno a 20 piedi da me. 30 piedi. Bravo Giù, mi piace quando sei attento. Quindi sì, fa la carica l'alci. Ah, sì. Fa un 20. Quindi tu sai che devi tirare un tiro salvezza sulla forza, oltre a subire 6. 15. E lo passa in questo caso. Super zombie. Però 6, aspetta. Subisce 5 danni. Sono 9 danni contundenti di bludgeoning con le run. Un'altra gamba si stacca. E poi sta a me. E io faccio un 12. Beh. Che è 12 la questa battuta. È 8. 8. 8. Non devi fare uno. Questi sono 12 danni. E poi tiro un altro. E ho fatto uno, visto? Ecco, vedi. Finalmente l'ho chiamato. Questo lo conta. Continua a sparare, che tanto sono ancora lontani. Ah, stanno su di me. Stanno andando verso di Bardistron. Sono sempre la stessa distanza, quindi si muovono in orizzontale dal mio punto di vista. Sì, adesso faccio magari un po'. Vabbè, faccio un movimento e tiro. Potrebbe essere qualsiasi numero, lo sai. Quindi 2 di 6 più 2. 9. Immagino tu spari sempre lo stesso. Sì. C'è 8 di dado, quindi prende 8. 9 e 8? Sì. Che fa? 17. Muore. Sì. Atas. Sparo quello che è ferito. L'ho ferito io. È quello che ha appena ucciso. È lo stesso. Quello avete sparato lo stesso, immagino. A quanto pare. È uguale. Quello che è su Varistran era lo stesso. No, no, è un altro. No, sparo su quello. Beccato. Schifo. E 8 danni. No. Ok. 8. Ok. Quindi sta a loro. Su quello che avevo finito io? Mm. E non è morto. È ancora abbastanza in salute. 9 più 12 più 8. Beh, 29. Mi sono perso dei 12 allora. 9. 12 che ho fatto io col primo attacco, il secondo che non ho beccato. Ah, un PF. Beh, quasi. Mi spiace. Ok, quindi lui con la sua azione prova a prendere più 8. Ma io lancio a te. Non ci sono i razzi, Fai la tua prova, fai la manovra. La mia manovra è un athletics 18. Vinci. E quindi attacco d'opportunità. Gli altri si avvicinano e sono a 10 piedi da te. Oscuro il cammino. Atanas, Bardistron. Molto bene. Allora faccio. Quando due personaggi sono così simili ci si confondono. Faccio il mio attacco. sì, un attacco. Uno. Faccio il secondo attacco. Lo prendo stavolta. Di peso. Perché mi sposto adesso. Faccio verso di voi. Vabbè, 2, ve lo tengo. Vabbè, io sto arrivando. 7, 4, 11. Io ho visto quindi direi che muore. E poi con l'alce. Voi loro quanto sono da me? 10. Noi. Ah, loro? Io 35. La, 35, tu l'agitate dell'arco. Mi sono 70, io mi sono 60. 35? Sì, ho fatto metà strada. Allora, l'alce fa 30 piedi in avanti. Oh. Verso Garrosh? Sì. Loro cioè non riescono, non riesco a raggiungere. Non puoi fargli così, fare un attacco e poi spostare. No, al massimo si muovono no, di 40. Sono a 10 piedi. Sono a 10 piedi. Tu hai appena attaccato. Sì. Ah, tu non sei sull'alce. Io sono sull'alce. Non può l'alce attaccare quello che hai attaccato tu. No, ucciso. Ah, scusa. Puoi inferire. No, no, no, no, no, no, no, no, no, allora va bene, inferisce sul cadavere così scelgo con te. Cioè, no, non è possibile, abbia una buona giornata. Ciao ragazzuoli. Ciao, vale giovedì. E con rimaniamo che lunedì si gioca anche se il 23. 23 in teoria sì, per ora direi di sì, facciamo sezione natalizia assolutamente sì, la tavola è già bandita, sì. Okay. La sessione è prima di Natale, direi che sarà prima di Natale, poi ci aggiorneremo dopo, ma direi che 23 sì, forse devo fare okay. E il 22 il 22 ci sentiamo perché per ora l'ora abbiamo spettacolo delle 9 la sale vuota. Hanno preso una quindicina di posti al centro. Non guardare lo spettacolo delle 10. Non c'è. C'è uno spettacolo delle 10. Beh, ci sarà. Perché non dovrebbe esserci 22 alle 22? Ma le 22 e 30 mi sembra di dire. No, quello lo fa solo il 2022. Comunque... No, ci sarà per forza. Cioè alle 5 e mezza, alle 8, alle 9. Le 9 è l'unico che ti piace perché gli altri sono interferirebbero. No, non me l'ho prenotata ancora perché aspetto un attimo. Cosa devi... che se domenica facciamo pare alle 9... Beh, ce la faresti. Oh no. Alle 6 e mezza? Anche. Eh? Devo mangiare anche. Beh, vabbè, sarò un po' prima. Comunque adesso controllo. Mi sembra strano non sia alle 10 di sera, ragazzi. O lo metto un dopo, però per ora non c'è. 5 e mezza, 8 e 9, però. Perché tu sabato non potevi, avevi detto, no? Che è il 21, esatto, non posso. Ah, domenica c'è, sì, 5 e mezza, 8 e 9. Strano. Vabbè, ci sentiamo, meno che tu non voglia fare. Comunque ci vediamo il 20, quindi. Sì. Tu ci sei 20, sì. Okay. Cioè, mercoledì il giorno che esce c'è alle 11, all'1, alle 2, alle 15:15, alle 16:30, alle 17:30, alle 18:30, alle 20, alle 21, alle 21:30, alle 22. Lavorativo. No, mi sembra strano che due giorni dopo che è uscito hanno tolto quello del 22 di domenica. Alle 11. Vabbè. Cioè il giorno che esce ci sono 11 spettacoli e tutti esauriti, no, tutti 11 gli spettacoli, dico io 19. Oddio, beh, no, posso delle 11 figure. Beh, comunque ci risentiamo, se dovete non comprarlo ancora, cioè come te degli studenti di 15 anni non saltano scuola e vanno a vedersi alle 11 di mattina. Io la dai qua, ma gli studenti non frega più, se Dio sa neanche cosa sia sta borsa meglio adesso 15 anni. No, sì, perché sono usciti due nuovi. Sì, io sì, sanno. Vabbè, inizia, cioè. Sì, se ha fatto campione di incassi, la gente lo sarà andata a vedere. Sì, ma dico 15 ci anni adesso a vedere i gormiti. Beh, diciamo che mercoledì alle 11 è pieno, eh. No, c'è una cosa, andiamoci mercoledì. Vabbè, comunque no, non prenotare. Io dovrei essere così. Però ci sono due posti. Per... No, due. Capito, Viz? Dovrei prenotare ancora che ne riparliamo. Ne riparliamo. In realtà, secondo me, se vediamo che andando avanti no, rimane vuota, non prenotiamo perché se io che tu abbiamo la 3, esatto, paghiamo due biglietti in 4. Esatto. Infatti, sì. Se vedete che comincia ad andare via e dovete prenotarli, ditemelo che. Però se lo prenotiamo. Se no, domanda: si può comprare un biglietto per i giorni successivi? Ma quindi la Mickey viene con noi domenica? No, sì. Non si può. Chi può, tu che ci vai anche venerdì, sì. Puoi prendere già i biglietti anche per domenica quando vai lì? Allora, okay. Basta. Secondo non me credo, puoi quelli lì con le prevendite lì puoi farlo solamente. Non credo perché ti darebbero una prenota. Secondo poi me puoi più farlo in giornata, però cioè puoi andare lì tipo. No, il giorno stesso sì, il giorno stesso, ah, stesso sì. O la però loro marciano sul fatto che la prevendita costa di più, quindi te la devi fare online. Sì. Però un giorno la, per la mattina potresti, tipo, potremmo fare l'ignoranza. Beh, raga, vediamo quanti posti. Sì, sono, esatto, speriamo, monitoriamo. Ciao. Però che vabbè, monitor. Vabbè, io mi avvicino a loro, quindi passo la palla. Quindi io? No, ah no, no, non so se voi ci arrivate in realtà. Io al prossimo turno se arrivo già da loro. Cosa fai? Se lui è venuto indietro però. Vabbè, io perché faccio li faccio avvicinare a voi. Stai fermo e spara. Esatto, sparo e basta, allora li faccio avvicinare. Prego. Cioè io li voglio disperdere un po' perché sì, stavano. Colpisco e sono 4 danni col primo. Col secondo colpisco e sono altri 4 danni. Atanas. Sparo quello che ho sparato scio. Colpisco. Vabbè, vantaggio. Ah no, ne hai tirati già 2, scusa. 8, 10, 12 danni. Ok. Si conficcano le frecce nel cranio. Non che cambi molto. Allora, quindi sta a loro che da lì vanno verso di voi. Lui ha fatto, non so, prova a entrare nel freghetto, forse ci sta uguale, sarebbe la freezer, però forse questo no. Ha fatto 40 piedi, giusto? Io ne ho fatto 30 piedi. Cioè, forse sì. Hai fatto 30 piedi. Sì, giù. Non tutta la velocità del lancio. Che è di 40, se non sbaglio. Fisti, pazzesco. 50 fa l'alce. Minchia. Va bene, sono a 20 piedi da te. Ah, dimmi quanto è distante i sinci tra di loro. Sono molto vicini. Sono ad... uno dall'altro ci sono almeno 15 piedi di distanza. Però se... vabbè, io posso muovermi anche post. Sì. Va bene, quindi ha 20 piedi da me. Sì. Ok, perfetto. Attacchi. L'alce carica. Senza paura. Qua però devi fare un bel colpo, Va a colpire. Sono 11 danni. Non lo puoi ritirare? L'alce. No, l'alce. Ah, scusa, l'alce, hai ragione. Prendo l'alce a due mani. 11 danni. 11 danni, mi tira. Fa un tiro salvezza, por favor. 8. 8 è prono. 12. Sì, dai. Attacco io con vantaggio. E lo prendo. Undici danni, primo attacco, secondo colpisco, 14. Forse ce la faccio, 14 danni. Col primo attacco gli segue un braccio e col secondo lo segue metà. Quindi è morto. Quindi è morto. Allora, utilizzo la 15 eccetera, mi sposto con l'alce di una ventina di piedi, esatto, torno indietro. Torni dove eri prima. Ok. Mi sembra una buona tecnica. Quanti ne abbiamo sassati? 3. 4. Garrosh. E faccio la stessa cosa che ha fatto lui, faccio 20 piedi, attacco e faccio 15 a tornare. Ok. Se lo ammazzi però, se lo prendi attacco con l'unità. Si perderà un attacco con l'unità. Oh mio Dio. Sì. 8 di dadi. Qual è la tua divinità? Qual è la tua divinità? Oh mio Dio, quale? Devi dirlo. Sperando che non si offenda. 12. Ah, vedi? Morto. Cosa? Questo è il secondo attacco. Vabbè, 16. E sono 11. Muore. Tagliente. Sì. No, è perforante la lancia. Ah, con la lancia, scusa. Hai fatto 21 danni. Ma è ancora in piedi. Torni indietro e beccherò l'attacco di opportunità. Ah! Ti manca. E ne faccio solo 15, sparo. Però a tornare indietro. Sì. Capito? Sì. E ne ho 35 totali. Primo attacco, 5 danni. Sì. Attenzione, secondo attacco manco. No! No! Ok, sta. No, è un più 5 solo. Più 2. Vabbè, con. Scusa, stai tirando a distanza. No, più 7 è ancora normo, però. quindi ce ne sono 9. Per te, bello. Ah, let's go. C'è una novità. Sì, sto prendendo il robo. E poi mi è andato questo. Cos'è il robo? Foster. Cos'è il robo? No. Cos'è il robo? Jupiter. No, prima. Cosa non so come si chiama? Quello che devo prendere. Minatore? Sì. Sta bene, no? Ma allora. Sta loro. Allora, cosa vuoi dare? A spruzza proprio. Quello che ho finora, sì, queste sono le confezioni strane, vedi? No, perché io ho uno che è solo della polvere, ma non è che spruzza, vai, ma lo io. Tanto diverso. Cazzo, qui c'è guardi, strano. Polvere per inalazione. Tre zombie arrivano addosso a te. Devi come fanno? Sei a 20 piedi da loro, loro si muovono di 20 piedi. No, perché io ho ucciso uno, che era, e poi quello dopo era 15 da me, e poi sono andato a 20 piedi. 15. Quindi 35. Sì, se fosse stato dietro, non è che erano... Cioè, penso fosse un po' scontato che non andassi in una zona dove, però, come preferisci. Cioè, l'idea di base era tornare indietro per non essere, certo, colpito, perché sennò non avrei fatto quella mossa. Perché non avevi abbastanza movimento per fare tutto, quindi io pensavo fosse... Non l'ho fatto neanche tutto, in realtà. Infatti non avevo capito. Beh, tu saresti morto da ieri, vi ricordo. Cioè, nel senso, se tu mi dici che devo fare 30 piedi per... devo fare 30 piedi per non essere a quanto 20 piedi da loro, quanto è che fanno di movimento? Sì. Se tu mi dici devo fare 30 piedi per non essere a 20 piedi da loro, li faccio. Vabbè. Per quanto la locuzione non abbia molto senso. Bene, però nel senso, se vuoi fammi attaccare, non è un problema. No, era solo per cioè, nel senso, pensavo fosse evidente. Cioè, tu mi hai detto che no, io ne ho ucciso uno. Farò pass- io ne ho ucciso uno. Pesare, quello dopo era 15 piedi da me. Io ne facevo 20 da lui. Quindi. E quindi ero a 35 da lui. Questa era la mia idea. Sì, se fossero tutti in linea retta, ma erano 15 piedi uno di fianco all'altro. Non so, io ho iniziato da un lato. Ok. Però poi sei fatto avanti e indietro da dove stava lui, se ho capito bene. No? Cioè, non ho capito, cioè io ho iniziato da un lato, quindi presumibilmente se loro sono tipo ad arco, sì, per dire, loro convergono tutti sul lato. Tu non sei andato, tu, okay, cioè io l'ho capito così, però se tu mi dici che no, è diversa... No, ho capito che tu, tipo, da dove stava lui facevi avanti e indietro. Cioè io, ma io nel invece, senso lo faccio per portarmi fuori dalla gittata e portarmi verso di loro, così che avanzino verso di loro questo giochino in teoria. Tu lo fai stando di lato, quindi non al centro. Cioè, nel senso, dimmi tu, però immagino che con 30 piedi ci sia un punto dove io vado e loro non ci arrivino. 30 piedi. Ok. Quindi se è possibile lo faccio, se mi dici no, a me mi fammi attaccare, non è un problema. Era per dire che, nel senso, la mia idea era non farmi beccare. Ah, Lazio addirittura ha vinto. Perché sennò non mi sarei spostato. Lazio ha pareggiato 1-1. Va bene. Ha vinto? Stava al 120esimo, ci ho guardato fino... Ok, allora... Serio? Quindi tre si muovono e arrivano a 10 piedi da te. Ok. Al 93esimo e 98esimo. Altri tre arrivano dove sta Garrosh, ma... Non hanno più azioni per attaccare. Io ero 15. Che cazzo, sì, è possibile? Ho usato tutti i loro movimenti. Che robe? Ma sprintano gli zombie oppure no? Fanno il loro movimento e usano la loro azione per fare un altro movimento. Ci conviene spezzarlo. Esatto. La medicina che salva la vita è impossibile da aprire. Scusa, che roba. Tipo, fammi vedere. Che cazzo è fatto? Cos'è? Perché malato sta? Ma secondo me non voleva dare. È una sorta di inalatore. Hai 120 dosi, c'è anche il numerino che te lo dice. No, ok, vabbè, ok, grazie, ma non fai come. Non devi spruzzare, lui semplicemente. Vabbè, non vorrei farlo, però. Ma tanto lo devo fare. Esatto, ti ha preparato la dose, tu aspira. Soffia fuori tutta l'aria. Se lui così è preparata l'aria. Esatto. E devo soffiare? No, non devi soffiare dentro. No, sputa tutta l'aria e poi aspiri dentro. Scusa, comunque ci sono delle istruzioni. Sì, ma è diverso da quello che ho io. No, c'è la dose preparata però lì. Lì se lo chiudo? Se lo chiudi c'è la polvere lì dentro e quando lo riapri secondo me ti fa un'altra dose. Foster è una polvere che viene inalata attraverso la bocca e lasciata direttamente nei polmoni. Continua il principio di attività. Credo, eh. Non si sono nulla. Che cos'è? È una sorta di inalatore per l'asma. Quindi devo soffiare, devo ispirare. Se vuoi esserci tu. Oh, aspetta le istruzioni che sono molto però, dettagliate. Sì, devi ispirare. Non lo so, ho bevuto qualcosa però. Bevuto qualcosa. Come usare Foster? Quindi questo è il secondo, questo una dose raccomandata di questo funzionale, due inalazioni di volta al giorno. Vabbè. Chiamato Nexalter, racchiude una bustina aperta. Ci sono le immagini. Facciamo prima. Lo apri, prima inalazione, espiri il più possibile. Non respira attraverso il inalatore. Quando possibile resti in piedi o si siede in posizione verticale durante l'inalazione, sollevi l'inalatore, porti la testa alla bocca, richiuda i labbra attorno al boccaio, non copra la presa d'aria mentre tieni l'inalatore, non inali attraverso la presa d'aria. Ispiri rapidamente e profondamente attraverso la bocca. Non c'è niente. Non devi farlo, ma usa la bocca. È quello che hai fatto, Vezzo. Lo apri, lo prendi, vai. No, perché l'altro sento molto di più. Dopo aver espirato la. No, adesso ne hai preparato un'altra. Sì. E deve farne due. Deve farne due volte al giorno. Esatto. Benvenuto nel club. Questo è quello che faccio prima di dormire appena mi sveglio. È la verità. Beh, ci acquati la bocca ogni volta che lo fai. Perché c'è un po' di cortisone dentro, non va bene se ti rimani lì. E amici telespettatori. Così si somministra l'aerosol. Ma io mi sono peggio di una volta. Io non sono peggiore del mondo. Non ce l'avevo, però quando sono cresciuto mi è passato. Perché mi è andato uno che. Che l'altro che ho è così. L'asma giovanile. Sì, quello lì è come. Quello però lo usi regolarmente o solo per le emergenze? Io finora ho usato questo. Ma lo usi regolarmente? C'è una medicina da assumere regolarmente, una cura? Adesso questo sostituisce questo. Perché io ho una cosa quello lì simile, ce l'avevo come salvavita. È il classico Ventolin, io, che è fatto uguale. E quello che dici tu serve solo per le emergenze. Quello che vedi nei film che gli danno, che fai così, quello è per le emergenze. Quello forse è proprio un medicinale, invece, che è una cura regolare. Non lo so. Sì, dipende dal flacone che si mette dentro. Sì. Giulio, però di solito la verità, per le pastiglie omeopatiche di solito questi sono quelli regolari, cioè quelli con la polvere che tu inali sono quelli per la cura continuativa. Guardi Stran, due zombie spuntano da sotto la tua alce e provano ad afferrarla. Prova a fuggire. Perché ti sei rimasto male che prima non potevo sarebbe successo comunque. Siamo a fare che lui abbia un inalatore come Ninno adesso. Un po' di botte. Allora. E niente, cosa devo fare? Un tiro. Prova contrapposta con la tua alce. Sì. Non puoi sapere quanto. Già. Comunque un 4, Viene preso in lotta. Quindi lui cade? No, l'alce è movimento zero. Paradossalmente lui può scendere dall'alce e andarsene per i fatti suoi. Non lo so. E questi erano i due che sono spuntati. Garrosh, ok, si è circondato da tre zombie. Ma non ti possono attaccare. Vardi, stroke. Beh, l'arce in presa in lotta può comunque colpire in lotta. Sì, tranquillamente. Può tentare di liberarsi. Sì. Marco se vuole può andare a dormire, lo vedo cotto. Ma effettivamente. In realtà si può, se vuole sì. Se vuoi puoi andare a dormire, effettivamente. Allora, l'arce. Non essendo una scena tua, ti vediamo un po' cotto, vedi tu. Marco, tu vuoi giocare l'ex arcana? Certo. L'arce fa un rend. Visto? L'altro fa un rent. Lo prenderà come un simbolo. Le zampe gliele hanno prese, quindi non può riesce a fare un zoccolata, immagino. Beh, ne ha 4 di zampe, quindi una zampa con cui attaccare ce l'ha. Tanto comunque prima della prossima sessione provo a fare un sarai qua a Bologna, quindi. Mi fa un bell'uno però. Questo ne ho fatti tipo 4 su. Dobbiamo ora faccio stare. Dai, vuoi andare a letto, Marco? Io colpisco invece. Allora, ci sentiamo. Ci sentiamo Marco. Ciao Marco, buonanotte. Ciao Marco, buonanotte, ciao. Alla prossima. Ciao. Intanto sono 14 danni a questo qua. Sì. Provo a fare un altro attacco, colpisco. Non riesce a devo ritirarle. Da 1 a 1 a 6 6, Giulio, non guardi. Grande. No, da 1 a 1 a 6 6, veramente? Sì. Oh, sborone. E quindi diventa un attacco dominante da 16 danni. Fuck. Segato. Cosa? Sì. 30. Ah, è vero, però ho fatto 14 prima. E vabbè, però rimango lì. Mi sa, perché l'altro c'è. Quindi tiene comunque l'arcia bloccata. No, ha ucciso quello che la teneva bloccata. Ah, ce n'è un altro che? Ce n'è un altro che è lì. Fa lo zombie. Vabbè, rimaniamo lì. Va bene. Gardosh. Ne ho tre addosso. Ne ho tre, tre intorno a te. Vabbè, comincio. Solo che questi sono due in più. Comincio a smazzolare. 19. Boh, questo direi che posso anche buttarlo. 12. Se ce n'era uno già ferito, ovviamente tento di finirlo. Sono interi. Perfetto. Allora col secondo attacco uccido questo. Facendogli 12. È ancora vivo. Sì. E no. Niente. Hai finito gli attacchi. Sì. Pensando se. Ah, passo. No, aspetta. Beh, intanto può andare. Domanda, con un acrobatics posso provare ad andarmene? No. No, azione non puoi fare. Hai ragione. Allora sparo. Su quello che ho appena ferito. Sto continuando. Su quello che ho appena ferito. Su quello che ho sparato. Quello che ho appena adesso. Ferito. Cazzo. 7 danni. Quello che ho... Adesso quello che ho ferito. Adesso quello che ha ferito. Bravo, buona iniziativa. Non mancarlo. No, vabbè. Devi fargli tipo 6 danni. 5 danni. No, no, è a 1. Dimmi che non è a 1. 24. No, è a 1. Matematica. Usa l'inspiration per finire. Zombie. Così a caso. Allora, zombie su Garrosh. Quello che è a 1 ti fa i suoi bei 3 attacchi. 18. Ti prende con 2. Con un morso e con un artiglio. Ah, hanno tirato 2 di 6 temporanei. Il prossimo che uccido li tiro. 7 danni. Ma hai ucciso qualcuno con la lancia? Sì, credo di. Non mi ricordo. Sì. No. No, solo con le frecce? Finora sì. Questo l'hai portato ad uno di vita, quindi. Quanti danni ha fatto? Hai ragione, prima non l'ho finito io. L'ha finito. 7 danni a Garrosh. Ah, questo era il primo, poi c'è il secondo. Non fa un critico. Ma sei in ira, no? Fa un critico di 12 danni. Anche un critico. Su di te? Sì, sì, ha no, fatto no, anche un fumble, quindi cose si bilanciano. Il terzo. Colpisce con un artiglio e con un morso. Quindi fa 7 danni sempre. Ma stai tirando alto o hanno un buon tiro per colpire? Questo è stato un bel tiro. Hanno più 3 colpire. Quindi stai tirando alto, maledetto. Beh, 19, 18, 13 in 3 danni. Cazzo. Poi. Ha fatto quasi 30 danni. Perché sta tirando alto, appunto. Quello su Varus. Ho detto rimango, tanto vuoi che. Cioè, era meglio subire 3 attacchi di opportunità e andarmene. Sì. 17 ti colpisce? Sì, a 16. C'era meglio subire 3 attacchi di opportunità. 4 danni. Cioè, è uguale proprio. E poi arrivano gli altri 3 che erano distanti, 10 piedi da Verdistran. Quindi il primo, che non ha perso niente, prende con questi 2. Un morso e un artiglio. Perché non usiamo la tattica giusta? Stai indietro e spara. 5 so. Danni. In effetti era questa l'idea iniziale. Non so perché siamo andati avanti. Poi questo non manca. Non mi aspettavo così tanti danni, essere sincero. Questo lo colpisce, 17 lo colpisce, sempre un morso e un artiglio. 11 danni. Sì. E direi che sarà meglio rimanere dentro la città. Vardistran. puoi ritardare dopo di me, tanto non cambia niente. Scusate che dovendo domani andare a Codigoro preparo già anche per la grande la roba. E beh, sono lì contro uno, no? Contro tre adesso, tre. Adesso quattro. Ah, beh, allora l'alce prova a tirare gli hoofs su uno. Aspetta, potrebbe essere una mossa migliore se io colpissi. Non siamo in lotta, però. No, no. Se noi andiamo, prendiamo un attacco d'opportunità che fa meno danni che l'attacco completo. Okay. Ma a parte quello, per esperienza, però, se hai la reaction, giusto? Se sono attaccato, puoi usare una reaction per disingaggiare. No, è un'azione disingaggiare. Esatto. Però l'alce può disingaggiare. Può usare la sua azione invece di attaccare. Per disingaggiare, io sono sull'alce, lui disingaggia. Questa è un'ottima domanda. Non so, abbiamo se già avuto questo non problema. So se lei disingaggia. Lei evita i suoi attacchi di opportunità, non so se automaticamente evita anche quelli che prenderesti tu. Vabbè, facciamo così. Io faccio i miei due attacchi. 1, 19. Peccato. E sono meglio. 9, 4, 13 danni su quello che ho davanti. Beh, ce n'è uno già ferito, immagino che tu attacchi quello. Ce n'è uno ferito da chi? Da te. Ne ho ucciso uno prima? No, uno che era già stato ferito. Come sei? Boh, vabbè, 13 danni su quello. È morto. E l'altro attacco, colpisco un altro. Mm-hmm. Che comunque lì attacca, scoprito, sono tipo semicircondato. 4, sì. Cioè 43, sono entrato. 8 e sono 12 danni. Ok. Dopodiché, l'alce disingaggia. E va e si allontana da loro di 50 piedi. Ok, ti lascia lì quindi. No, io sono sopra. Se mi vuoi fare gli attacchi, bene, dai, poi pigliateli gli attacchi. Per me sì, ha senso effettivamente. Ci può stare che uno 5 danni. Mentre l'alce si sposta, ti dà un colpo. In teoria il cavaliere è sopra. Sì, lei domani si sposta, ma cioè, a livello di domani quando sono al lavoro, no, ci guardo. A livello di gioco, forse sì. Vabbè, domani deve cambiare. Vabbè, se no aspetta un po', che non ha più il lavoro dopo. No, non lo so, vabbè, va detto anche che tipo io non sto facendo dei tiri sul combattere a cavallo, però. Vai anche tu a fare l'auro. Per cui complessivamente ci può stare. Andiamo tutti a cacciare il maglio scuro. Vai a fare l'auro anche tu. Sarebbe figo. Tocca a te, continuo a smazzolare. Dai, ridendo scherzando. Cacciamo il maglio scuro. Intanto devi sempre fare dei gran chilometri, quindi non cambierebbe molto. 12. Muore. Non ti veniva a attaccare un altro. Eh? Non ti veniva a attaccare. Che cosa cambia? Tanto quello prima o poi l'ho ucciso. Beh, che con un punto ferita lo uccidevo io facilmente con una freccia. Ma lasciamo io, finisco io. Cioè. No, so tiro 2 di 6 temporanei. Aggiungimi 9 danni temporanei. Quindi a lui conviene la stitta. Poi ho fatto 2, rischia. Sono 7 danni. No, 9, scusami. Ok. Aspetta, no, mi allontano, cazzo. Non faccio la stessa cosa, preferisco due attacchi di opportunità. Ecco, mi allontano di 35, così loro non riescono a raggiungermi dopo. 35. Sparo a uno ferito. Uno ferito su Vardy. Uno zombie. Uno ferito su Garrosh. Su Vardy strano. Mi becco. 14. È molto ferito, ma ancora in piedi. Tocca a loro, quindi. Quelli da cui sei scappato arrivano fino a te, Garrosh, ma non arrivano. Non possono attaccarti. Fanno 40 piedi. 20 più 20. Ah, scusa, 20 più 20, vedo un scemo. Sì, sì. Però hanno già usato la loro azione. E tu che cos'è che avevi fatto, Vardistran? Allora, io mi ero allontanato. In realtà la mia idea sarebbe quella di andare dalla parte opposta per loro. Ok, verso la foresta. Cioè, nel senso, loro si stanno convogliando su di me, no? Sì. Però ce ne sono ancora alcuni distanti, no? Sì. Quindi la mia idea è allontanarmi e poi andare da quegli altri. Ok. Hai capito? Però, nel senso, ho chiaro che sul momento io mi allontano di fatto da loro da 50 piedi, però se posso farle, diciamo, intanto un po' un arco, mi aiuta come cosa. Ok, quindi tu ti allontani questi... Perché poi dopo vorrei andare ad attaccare quegli altri, non so quanto siano, insomma, E questo era Vardistron. Garrosh. Secondo me hai chiesto a Vardistran che cosa aveva fatto solo perché toccava ai di zombie. Voleva capire dove fossi. Sì, quindi continuano ad andarti dietro. Tu ti muovi di 50, loro di 40. E quindi non ti raggiungeranno mai. Quindi tocca di nuovo a te, Vardistran. Bene. Allora, riesco a arrivare prima dall'altra parte. Sì. Ok, allora ne carico uno. Dai. Arriva lancio potente. Bam. 14 prende. E sono questi. 11 danni di tiro sulla forza. 11 solo? Allora non lo passa ed è prono, allora ho vantaggio. Colpisco 1. 11, 4, 15 danni. E poi faccio l'altro attacco. Rischio, ma prendo. 2, 1, classico. Si trasformano in un bel 14, che penso che lo segni. 2-1 hai fatto di nuovo da 2-1? No, ah, 6-4. Sì. Però tu hai fatto 14, prima avevo 15, fatto 15 e poi ancora 11. E l'altro 11, mi manca la sì, segnato. Ok, allora. Vezzo, vedi questa scena. Sì. C'è sul limitare della foresta un altro zombie. Sì. Dietro di lui appare un altro zombie. Sì. Più grosso. Più grosso, molto più grosso, e con completo di un'armatura rugginosa e una spada lunga a due mani che brandisce nelle sue palle. È il tuo futuro, non so se sei conto. Quanto distante, e però? 70 piedi. La sua sua espressione di questo zombie è di quella di una persona che non conosce la paura. Ok. È uno zombie, cioè non conosce niente. Si muove nella sua scarpe, armatura di maglia. Scarpe. Come distrarre una platea. E brandisce questo spadone a due mani. E vedi che mena due fendenti a questo altro zombie normale. E lo taglia a fettine. E poi nascono più zombie. No, non nasce niente. Cioè, quindi è arrivato questo zombie, ha ucciso uno zombie. Sì. Qui è il nostro alleato, credo. E non lo so, io. Cioè, lo dobbiamo uccidere? Quanti o... sono i massi di zombie? Di da tanto. Voi sono 5. Dobbiamo attaccarlo? Dobbiamo ringraziarlo? O affronterei anche lui. Punto. Sì, aspetta, io non lo vedo. La domanda è seria. Non lo vedi benissimo. No, lo vedi solo tu. Io non lo vedo. No, è una domanda seria la mia. Lo attacchiamo, però appena ucciso uno di quelli che stiamo uccidendo. Cioè, bisogna vedere quanto a che velocità va. Lo decideremo. Cioè, adesso sì. È solo Vez che può scegliere. Vabbè, chi sta? Questo eri tu, Vez, quindi sta Garrosh. Io continuo a smazzolare quelli che ho addosso. Non va in ira, scusa. Ma perché lui è felice di. Mi piace prendere danni non dimezzati. Perché se dopo dobbiamo avere uno scontro più serio. Per lui è tipo meditazione, uccidere zombie, cioè è una cosa che lo rilassa. E 8. E col secondo attacco. Cioè, mi sono mosso verso di loro. Ah no, sono addosso. 9 col secondo. E poi mi allontano di nuovo. 9 col secondo, ok. Magari facendo quello che ha fatto Vez. Cercando di raggiungere Vez. Cioè, se lui ha fatto. Guardami un attimo, se lui ha fatto questo, io magari faccio questo. Sì, però lui si muove di 50. Lui si muove più. Di più. Sì, vabbè, 35. Lui ha fatto 9, hai detto. Con l'ultimo. Sì. Ok. Piccoli 18. Piccoli shake crescono. 4 danni. Quanti? 4. Atanas. Voglio dire che si siano avvicinati un po' troppo, quindi muove indietro. No. Ma c'è in realtà. Non è per sicurezza. Ma tu cosa stai facendo? Stai sparando e basta. Sto sparando. Ma mi sono preso dietro tipo un carro di frecce. Per questo motivo. Tipico di me. Sì, è vero. Giulio gli piace questa cosa. E sparo su quello che avevo ferito prima. Sì. Preso. 3 danni. Oh, mi risparo. Cioè abbiamo tipo tutti portati danni a uno prima di ucciderli. Esatto. Comunque. Ok, tocca a loro. Quindi. Cazzo, i tuoi due tornano da te, Garrosh. Ma non mi attaccano. No, non ti attaccano perché sei andato a 35. E l'ultimo che sta, gli ultimi due che stavano verso Atanas, Vardistan, provano a raggiungerlo, ma anche loro vanno troppo piano. E lo zombie in armatura va contro un altro zombie e là, anche quello. Vabbè, lo toglie, però è a passo dal nulla, dal limitare della foresta. Sì, non farglielo notare che sta sbagliando obiettivo. Lascialo fare. Fammi un perception. Anzi, dai! Atanas. Atanas. Bardister, cazzo. Sono dei nomi troppo intercambiati. Perché? Scusa. Non si può neanche con lo stesso. Ha dei suoni simili. Roberto, ma io mi chiamo Simone. Sì, esatto, è più o meno che sì, è un buon esempio. Sparta, Bardi, da Copea. Vabbè, sì, diciamo, io mi Simone e Roberto ci sono. Sì, sì, sì, no, infatti era un'ottima analogia. Io mi chiamerò Coro in poi per evitare. Senti che dalla sua bocca escono mormora delle parole mentre mena questi fendenti. Scarpe, no. Dice: maledetti servi di strada, non avrò piace finché vi avrò distrutti tutti. Quindi è solo Giulio che deve tenere in questo caso. Maledetti servi di Strad. Sì. Ah, quindi potrebbe essere un amico. No, è uno zombie, devi uccidere. Paladino. È uno zombie. Ha le fattezze palesemente di uno zombie. Però ha un'armatura e uno spadone a due mani. Non ci sono i paladini non morti. Interessante. E vabbè, io sta a me, no? Mi ricordo bene, no? Indico il limitare della foresta ai miei alleati. Ho detto, attenzione di là! E poi dopo, e quant'è il più vicino da me? Quant'è? 10 piedi, vi ho detto. No, non so. 20. 20 è perfetto. E a carico con lo zombie. Attenzione che l'alzo non è così forte, però 12 basta. Se... 11, 14 danni e mi tira un bel prono. Pronino. Perde. Merda. Colpisco. 4, 12 danni, ah. Attenzione. È uno anche questo? No, è 4. Ah. Basta. Morto. 8 altri, 12. Garrosh, questo è finito. Garrosh ne hai due. Aspetta, quanto è quello dopo? Altri 10. Altri 10. Allora. Vai indietro di? Yes. Di 30. 30. Quindi 40. Uno colpisce, sono 7 danni. Se che poi è quelli che ho, 30. Non so se uno era già ferito. Stai tenendo tu. Uno è già ferito. Io ho fatto 7 danni. Muore. Allora colpisco l'altro, secondo attacco. E sono 7. Schifo. E mi allontano. 7 danni. Cioè, questo è l'unico combattimento in cui io ho fatto veramente figo. Sparo. È l'unica volta. Te lo finca dove vai. Mi sono allontanato. Sì. E direi a... ti colpisce, così fai. Tre danni. Non dovresti darmeli perché sono stato onesto. Sparo direi a di quello... Di mezza l'onestà. A quello su Sceo. Onestà di mezza, dai. Cosa sarebbe? 10 danni. 10. Ok. Questo era Atanas. Rimane solo questo che stava andando su Sceo. Fa 40 piedi, arriva dove sei tu. E poi finisce, tocca ad Ardistran. Quello... Ah no, l'altro ho già agito. A quant'è? A 20 adesso? È a... Tu se ti sei mosso di 30. Di 30, quindi è 40. Beh, non sono venuti verso di me. Sì, quindi adesso a 0. Ha fatto 40 piedi verso di te. Ah. Cioè ha fatto tutto il suo doppio movimento. Sì. Ah, che carino. E quindi è qui già qui. Sì. Perfetto. Eh no, invece no, un problema. Ah, hai perso. Quanto è quello dopo? Non ce n'è più uno dopo gli altri. È l'ultimo? È l'ultimo. Vabbè, non c'è sfortuna. Perché è un problema? Perché non posso caricare. Ah. Lo sa. Beh, scusa, se fai 20... Puoi bastare. Ti allontani, puoi ti allontani di 20 e ritorni indietro. Cosa ti cambia? In realtà potrei, sì. Beh, chi l'attacca di opportunità? No, perché è attaccato, non è in combattimento. Esci da un quadretto minacciato. Va bene, dai, lo attacco normale. No, non avrebbe senso a livello di... Sì, è vero. Cioè, l'abbiamo sempre fatto perché siamo dei power player di merda, esatto. Però non in realtà... Senso. Ciao Arci, in realtà lo faccio solo. E comunque preso con non l'ho mai fatto, non ho nessun bonus neanche. No, non è vero, l'ho fatto anch'io una volta sulle mura. Preso con gli hoofs, dai, così sono riuscito a fare un attacco con gli hoofs. Però io camminando sui muri dei di 4 ora. Cosa ti serve? Lunedì cosa facciamo? Facciamo l'ultima di qua? O vogliamo fare l'introduzione alla nuova? Cioè, bisogna anche capire come funziona tutto. Appunto, cosa ce lo spieghi lì. Allora, intanto sono 10 danni. Mm-hmm. Poi sta a me. Ah, c'è ancora questo. Allora, uno lo prendo. Dipende anche da... Però attenzione. Sì, 15 danni. Sì. E poi sta un altro attacco a me, vediamo. Critico. Direi che muore. Ma in realtà lui stanno sul cazzo lei. Devo raddoppiare i tiri. Se fa una campagna lunga. Sì. Andarci. 11 16 18. Sei tu l'altro? Sono io. Allora li tiri tu. Hai ragione. Devo ricontare però. 20 24. Basta aggiungere due. Muore. Probabilmente bastava due danni. Garrosh, no? C'è l'ultimo. Ho fatto anche un critico. Lo finisco. Secondo attacco. 10. Eccolo lì. Mi allontano. E come si allontana? Ti manca. Un attacco di opportunità invece che i tre attacchi completi. Giulia! Ci sta, finiscilo. 7. Solo ieri mi sono accorto che it. Il cattivo di GoldenEye, film di James Bond, sì. È Boromir o Ed Stark o comunque Sean Bean. Ah sì? È vero, già giovanissimo, irriconoscibile, però è lui. Infatti. Poi spara una freccia a Shiro. Perché non so, ormai sono i... ormai è la freccia, no. 22. Yeah, tira, vero? Si può fare danno letale con le frecce? No, no, no, no, no. Lo zombie in armatura. Magari apre... becca un punto nell'armatura, se infica in armatura e basta. Apre a metà un altro zombie di Strad. Gliela faccio passare però qui accanto all'orecchio. E poi... Capito Garrosh? Beh, si ferma ad ammirare la spianata. Se ti volti sono io che faccio così. Guarda nella tua direzione per cercare di capire se ha qualcosa contro di te o meno. Allora io gli dico, gli urlo: anche noi siamo siamo avversari del conte Strad, vogliamo liberare queste terre dal male. Dai non mor... Ah, scusa. Chi sei tu? Dichiarati. No. Il mio nome è stato perduto nei secoli. Non sento! Non si sente niente. No. È un po' distante ancora, no? Però lo senti chiaro. Okay. Ma lo sente solo lui. Voi sentite che parlano, ma non distinguete bene. Non si sente volume. Niente. Volume, non è così distante da me. Volume! Puoi fare che sentiamo tutti così. Non si sente niente. Vabbè, facciamo che sentite tutti... la voce direttamente nella vostra zona. Sono tornati i cori della sessione. Lo vedono almeno. Lo vedono almeno. Sì, vedete che lui sta parlando. Non si capisce. Io gli avevo indicato. Le sue parole. Come cazzo, ma. Scandite chiaramente all'interno del come vostro. Come cazzo, parlate. Come se stesse non parlando. Non si capisce lo stesso, il coro parte uguale. I popolani che escono. Non si capisce. Questo poi arrivano tre catapulte e ci lo scappa dentro. Mi scherziamo. Devi segnarli questo. Infatti, io mi insegno. Provocazione dell'avversario. Però in teoria è una cosa che tu lo provochi, però sei più forte di lui, mentre loro sono delle seghe. Il mio nome era Sir Oriordan. Dolores. Tutti come uguale ad Atanas e Vardistran praticamente, quindi anch'io mi chiamo così. Non è vero. È un uomo, cioè maschio. Sì. Sir. Altrimenti sarebbe stato Madame. Mi chiamo Madame? Lady. Io sono Madame. In vita era un cavaliere nobile, valente del sacro ordine del drago d'argento. Era una donna. Cioè... argento. Ma argento è il colore del male. Cosa? L'unico. Argento, ho già sentito questo nome. Oddio, questo colore. Il mio ordine è stato annientato centinaia di anni fa. Ho già visto questo quando metallo. Le armate del malvagio Strad hanno imperversato nella valle, distruggendo e saccheggiando. Da allora il mio spirito era incarnato in un corpo. Un corpo. E va avanti seguendo solo la sua sete di vendetta. Il mio desiderio più ardente è di uccidere il conte. Ma non c'è bisogno. Benvenuto fra i nostri alleati. Purtroppo però mi ha impedito di marciare alla volta del castello di Ravenloft finché il mio capitano esatto non mi ordinerà di farlo. Seguito, caro. Per favore recatevi al castello di Arginbostold. Sa di nuova quest e parlate col capitano Horngard e mi raccomando portate il video e convincetelo a muovere alla volta del castello. Mi sembra un'ottima idea, però è anche lui, suppongo, cioè dell'ordine che è stato sconfitto centinaia di anni fa. È morto. Come lei, ecco. Sir Oriordan. Sono tutti morti. Vladimir, ricordare. Il capitano dell'ordine, Vladimir Hongard, è quello che deve dare l'ordine. Ma è morto. Perché nel frattempo non resta nei paraggi a darci una mano? Non è uno spettro morto. No, aspetta. No. Dobbiamo risolvere prima alcune situazioni in questa zona, poi ci recheremo volentieri. Non è il momento per darci una questa. Nel caso, se lei rimanesse nei paraggi a darci una mano, poi la seguiremmo volentieri. Egorly? Prego, metti una firma su questo contratto standard. Alleato, okay. Sì, il nostro alleato. Non è morto ciò che può attendere in eterna. Col volgere di strani eoni, anche la morte può morire. Ma questo cosa c'entra? È lui che diceva è morto. No. Non ti risponde. Ma no, ma è Lovecraft quello. Cosa c'entra? Si adatta bene. E a me cosa ha detto invece? A me non mi ha cagato pari. Sì, non ti ha cagato perché era distratto da lui. Non si sente. Povero me. Eoni. Forse non hai sentito cosa ho detto. Eoni. Io sento. Sì. Ma tutte a parte. dai nomi che dice, ricollego a quello che ci avevano detto. Se vuoi te lo spiego io con le figure. Non mi ricordo se avevano detto i nomi, però l'ordine dei paladini che conoscete, l'ordine del drago d'argento. Che quello che facevano la guardia, che uccidevano le cine, gente. Che dicevano che forse però erano cattivi. Dei pazzi sanguinari. No, io avevo capito. Il discorso è questo, lui appunto... No, è che il ciccino non vuole che la maledizione finisca e vuole che Strahd sia punito per l'eternità. Esatto. Quindi ammazza tutti quelli che vogliono uccidere Strahd. O quantomeno impedisce... Sì, senza arrivare per forza a... No, è come l'ho detta io, ora basta. Lo sappiamo tutti che io ho ragione quando... Sì, hai capito, cioè. Cioè, nel senso, lui che adesso lui vuole è qui che Strahd rimanga... Lui vuole però che il capo odia tal punto Strahd che non vuole che la maledizione di Strahd finisca. Quindi non vuole che cambi lo stato delle cose. Sì, ma magari possiamo... Basta dar fuoco al castello. Vabbè, basta dar fuoco al castello. Andate, o mandiamo Marco, Marco e Darci. Mandiamo il bardo. Sì. Che è un carisma alto. Vabbè, io devo credere che sia oppure possibile. Non la vedo bene. Io devo credere che sia possibile. Per cui intanto gli dico: se rimane in zona e ci dà una mano, dopo lo seguiremo volentieri. Io. Ma è spinto dal terribile spirito della sua vendetta. Ma lascia che sia lui a rifiutarmi, Giulio, come tutti gli altri, ok? Beh, io qua rimarrò ancora per un po', c'è un sacco di lavoro da fare, indica degli zombie che girano e dei lupi? Ne ha visti? Dappertutto, e quando me ne capita uno tra le mani mi diverto un po'. Ha per caso visto un... Un vecchio e una zoppa. Un vecchio e una zoppa fuggire. No, non si vedono vecchie zoppe. Sono alleati potenti. Un vecchio e una zoppa fuggire. Per quanto non li abbia presentati nel migliore dei girava modi, sono alleati, in realtà alleati potenti. Porca verso il raggi, malvagio non splendere solo. Purtroppo però sono stati cacciati, sono stati, erano inseguiti dai lupi, per questo le ho chiesto se magari aveva avuto occasione di vederli. No, non, non ho avuto il piacere, però se li vedrò gli dirò che li state cercando. Sì, esiste un modo non per contattarla. Non si curava del fatto che ci fosse una moglie di Strahd davanti nei a loro nei prossimi giorni in rimarrò in queste foreste. Non cazzo. Vabbè. Non vi sarà troppo difficile trovarmi. Purtroppo. Dovesse aver bisogno, ci troverà nella fortezza di Crest. Tutta questa ferraglia addosso sono abbastanza. Mi possiamo uccidere, amico. L'armatura così lo riconosco. Esatto. Puoi donargli un pegno che lui porterà con orgoglio. Ok, delle frecce che fanno formano un pralamico. Ah, amico. Tenga pure. Va bene. Grazie. Beh, la puoi incidere sulla fronte, tanto uno zombie non soffre più di tanto. No, volevo usare l'armatura, si vede bene la fronte. Ah, bene, okay. Ok. Vabbè, quindi è finito anche questo 35esimo episodio. È vero. Della maledizione di Kat. Grazie per averci seguito, per averci applaudito. No, non avete commentato. Male. Abbiamo perso la fan numero uno. Sì. Io è un pubblico molto scarico. Farti notare che Gini non ci considera più. Gini ci considera più. Da quando l'abbiamo minacciata di venire a una sessione, può essere. Non ci segue più mai. Va bene, comunque grazie per aver seguito. Ai prossimi episodi la maledizione di Kat o qualunque altra cosa venga. Alla prossima settimana con la sessione natalizia. Sessione natalizia che vedremo di cosa sarà. Che potrebbe rappresentare novità forse. Ma forse no. Tanto prima o poi ci giocheremo. Alla no, vabbè, no, quello... E una cosa ci sarà di certo, cioè Marco. È vero. Riuscirà il nostro eroe a salire? Sì, certo che è scredito. E qui poi il titolo: la salita di livello. No, non è vero. Va bene. Ciao a tutti e buonanotte. No, c'era il nuovo claimer. Tenetevi.